Allora, se vi sedete, possiamo cominciare. Siamo un pochino in ritardo sulla tabella di marcia, ma vedremo di recuperare. Allora, intanto buonasera a tutti. Per noi un inusitato incontro e molto piacevole, devo dire, in questo posto. Non so quanti di voi sono passati prima. Questo è il centro sociale Conchetta, questa è la sala grande che ospita di là, altra parte del cortile c'è una porta, poi se qualcuno è interessato potremo farci un giro, la libreria e l'archivio Primo Moroni, che in qualche modo è interessato anche proprio da questo incontro. Archivio Primo Moroni, dove da più di 20 anni gestiamo, cataloghiamo, mettiamo ordine, rendiamo in qualche modo accessibile a tutti i materiali lasciati da Primo Moroni stesso e di altri fondi che ci sono stati consegnati, che riguardano la storia, diciamo così, di parte dei movimenti politici italiani dagli anni 70 ad arrivare al 97-98, quando Primo è morto, ma anche dopo, perché poi delle acquisizioni successive ci permettono di avere questi materiali. Il titolo di questo, la ragione di questo incontro, incominciamo così, poi magari verrà meglio spiegata proprio dagli interessati, Tommaso Vigliotti o Piero Carcano, non so. Comunque è l'acquisizione all'archivio di un fondo dedicato ad Alessandro Cazzaniga, che presumo sia stato un collega di diversi di voi, e quindi è immaginato anche come un momento in suo ricordo. Dice Piero che lottare, lavorare, pedalare in qualche modo sintetizza un po' in tre parole, in maniera un pochino sintetica la cosa. E, l'oggetto di questo primo dunque avremo la giornata, diciamo, l'evento è diviso in quattro parti. C'è questa prima parte, appunto, che avrà una discussione sul tema della precarietà, in particolare precarietà, solidarietà e lotte fra lavoratori di ogni genere e tipo. Seguirà una cena, i tavoli sono apparecchiati fuori, e poi avremo una parte che è dedicata a questo aspetto proprio dell'archivio e del lavoro e insomma di questa cosa qua, e alla fine delle canzoni bellissime che ho sentito in parte prima quando facevano le prove. La strumentazione vedete qua dietro è all'altezza, ecco, diciamo così. Basta. Io, siccome della questione del precariato in banca non so pressoché nulla, se non quelle cose che posso immaginare, qualche cosa che ho visto in questi video, lascerei la parola a Tommaso Vigliotti, che qua è il compito di partire lui, insomma, in questa discussione. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a tutti di essere presenti, e vorrei iniziare appunto anche ringraziando il centro sociale, l'archivio Primo Moroni, il Calusca City Light dell'ospitalità. Diciamo, il tema che affrontiamo stasera lo affrontiamo comunque in memoria di Alessandro. Io ho avuto il privilegio di conoscere e lavorare con Alessandro in ambito sindacale. E non solo perché in questi casi comunque è un po' d'obbligo, no? E quindi certe cose si usa dirle, ma perché effettivamente così. Un uomo, un lavoratore, un sindacalista di una serietà esemplare, che se un po' tutti noi, mi rivolgo soprattutto e mi riferisco soprattutto a quelli che come me occupano determinati ruoli nel sindacato, affrontassimo il nostro lavoro e le nostre responsabilità con la serietà, con la delicatezza, ma anche con la determinazione con cui Alessandro lavorava in banca e lavorava nel sindacato, non voglio esagerare, ma probabilmente avremo un mondo migliore. A me tocca il compito stasera, no, di parlare un po' del precariato in banca, diciamo così. Il tema potrebbe anche, il titolo del tema potrebbe un po' fuorviare, perché se noi andiamo a guardare i dati forniti dalle banche e dall'ABI, il precariato in banca quasi non esiste. Il 98% circa dei lavoratori bancari sono lavoratori a tempo indeterminato. Il tasso di precarietà, intesa così come lo intendono le normative, è bassissimo e ha comunque un significativo tasso, no, di stabilizzazione. Quindi dov'è il precariato in banca? Il precariato in banca, così come nel mondo del lavoro, sta innanzitutto nella direzione che ha preso la normativa del lavoro da diversi anni, di rendere più precaria proprio la stabilità del posto di lavoro anche di coloro i quali hanno un contratto a tempo indeterminato, di coloro i quali possono pensare, e quindi abbiamo sicuramente stasera diversi esempi, di avere una certa tranquillità per quello che era una volta il cosiddetto posto fisso, e invece si trovano oggetto di cessioni, di appalti, di outsourcing, di delocalizzazioni, e chi più ne ha più ne metta. Noi l'anno scorso, proprio di questi tempi, come sindacato Unisim BNL, tenemmo un convegno che affrontava questi argomenti, e in quei mesi abbiamo affrontato, e nei mesi successivi abbiamo affrontato delle... Scusate, ma chi ha segnato? Spero la Juve, scusate, ma attento a dirlo, vabbè, ma su certe cose su certe cose vabbè. Comunque vabbè, non me lo dite. Allora, no, dicevo, abbiamo affrontato in particolare in BNL, ma non è il solo caso in banca, dei conflitti sindacali veri e propri, perché sono state effettuate delle esternalizzazioni con due operazioni di cessioni di ramo d'azienda per circa il 10% del personale, un numero, un'entità significativa per quello che riguarda appunto l'impatto sulla popolazione dell'azienda, ma il tipo di operazioni non è nuovo nel mondo del credito, così come non è nuovo in tante altre realtà. Io non voglio farvela lunga su queste cose, anche perché poi questa partita si sta ancora giocando, perché comunque il puzzo, diciamo così, di illegittimità delle operazioni è talmente alto che ci ha indotto non solo a svolgere una dura contrapposizione con due scioperi in un mese, quando in quell'azienda e nel settore in generale praticamente non si sciopera mai, per fortuna, diciamo, nel senso che non ci sono tutti i giorni tali motivi, e ha visto le aziende, la cedente e la cessionaria, portare avanti queste operazioni, però ecco, tutto si è concluso senza alcun accordo sindacale e si concluderà probabilmente, andrà avanti, si concluderà con le aule dei tribunali. Numerosissimi sono i ricorsi dei lavoratori coinvolti, assistiti dal sindacato, sicuramente dal nostro, e lo rivendichiamo. E vedremo, la storia farà il suo corso e noi siamo certi che ci ritroveremo questi colleghi accanto, così come è giusto che sia, li ritroveremo nell'azienda di appartenenza. Poi però cioè non è tutto, la cosa più grave è che il peggio non l'abbiamo ancora visto, perché emerge dal contratto di appalto, dal contratto di outsourcing che lega l'azienda BNL ad una delle società cedenti, quella che ha acquisito oltre 500 colleghi, che è una azienda del mondo Accenture. In questo contratto si apprende che praticamente da subito e in maniera crescente negli anni il lavoro acquisito verrà esternalizzato in Romania. Allora, noi abbiamo un sistema normativo che consente tutto questo, che lascia solo a delle verifiche ex post, delle verifiche successive, quindi necessariamente delle aule di tribunale, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, che comunque sono dei requisiti non semplicissimi da dimostrare, ma nonostante questo nel mondo del credito già negli scorsi anni abbiamo avuto numerosi casi. Mi riferisco al Monte Paschi di Siena, con l'esternalizzazione e la creazione della società Fruendo, abbiamo avuto numerosi casi nei quali i giudici hanno stabilito che quelle cessioni erano illegittime. Allora, secondo noi bisogna interrogarsi, e soprattutto noi dobbiamo interrogarci, su qual è il ruolo del sindacato in questo scenario, no? Del mondo del lavoro, soprattutto della direzione che ha preso la normativa e la legislazione sul lavoro. Il sindacato, guardate, si fa facile, no, a dare la colpa di tutto al sindacato. Io dico sempre che il sindacato non è il principale colpevole dei mali dell'umanità, ma il sindacato ha una serie di colpe e una serie di responsabilità per le scelte che ha fatto negli anni, anche molto spesso in termini, come dire, di assunzione di responsabilità, che ha portato all'accettazione di un modello che è quello comunque di fortissimo neoliberismo, diciamo così, dove assumersi la responsabilità di ridurre i danni, perché altrimenti il lavoro va in Romania, perché altrimenti si perdono i posti di lavoro, e quindi accettiamo molto spesso anche di andare a fare accordi comunque, diciamo così, alla meno, cioè invece di difendere, ci ha portato a perdere terreno. Non vorrei banalizzarla, poi c'è chi magari qui meglio di me potrà magari entrare in questi ambiti, però ecco, io sono convinto, e noi la nostra piccola grande parte in questo periodo la stiamo facendo, che il sindacato, dopo che ha perso, diciamo così, l'occasione di dare effettiva rappresentanza alla precarietà, il sindacato, mi riferisco al sindacato tutto, dagli anni 90, da quando si è sviluppata, dal pacchetto Treo in poi, diciamo così, no? Per arrivare al Jobs Act, la forte precarizzazione dei vari rapporti di lavoro, ha praticamente rinunciato a cercare di intercettare le esigenze di quei lavoratori, e che in effetti, diciamo così, i tassi di sindacalizzazione nel mondo precario, nel mondo dei contratti a termine di vario genere, è bassissima. C'è un senso, come dire, di condizionamento, di minaccia che il lavoratore vive: se mi iscrivo al sindacato non mi confermano nel rapporto di lavoro. E assistere al sindacalista che consiglia il collega a tempo determinato a non iscriversi, perché chissà che succede, guardate, è una cosa tristissima. E allora noi, come piccolo nei numeri, diciamo così, nelle dimensioni, rispetto all'intero mondo sindacale, ma grande non solo dal punto di vista dei valori, ma perché come Unisin in BNL siamo il primo sindacato in termini di rappresentatività, avere, diciamo così, tra di noi colleghi che hanno iniziato, e qui ne abbiamo degli esempi, la propria attività sindacale giovanissimi, anche con rapporti precari, con contratti di apprendistato, è una cosa della quale noi andiamo orgogliosi. Oggi sappiamo che in altri ambiti l'algoritmo sta intervenendo anche in banca, sta iniziando a governare anche in banca, ma in altri ambiti, no, leggiamo dei rider, ma non solo, c'è l'impossibilità ad oggi ancora di andare a creare delle forme di rappresentanza reale ed effettiva per dei lavoratori per i quali è stato di recente creato, diciamo così, una specie di normativa che però è lacunosa un po' da tutti gli ambiti, da tutte le parti, questo tipo di rapporto misto, no? Rapporto ibrido tra contratto di lavoro dipendente piuttosto che autonomo, etero organizzato, etero diretto e così via, è un pastrocchio assurdo rispetto al quale intervengono fenomeni come in alcuni casi contratti nazionali pirata, che quindi in sostanza vanno a sottoscrivere delle normative appiattendosi completamente sulle istanze delle grandi piattaforme, dei grandi datori di lavoro, di questi lavoratori schiavi dell'algoritmo, e dall'altro invece abbiamo le grandi confederazioni che fanno una fatica enorme a cercare di dare rappresentanza a questi lavoratori. Quindi l'ambito della precarietà si è esteso dappertutto, come dicevamo, in banca non è da meno, perché assistiamo a un'erosione dei diritti. Considerate che in 10 anni il settore del credito, come numero di addetti, si è ridotto di un terzo, e questa deriva continua. Quando noi affrontiamo piani industriali nei quali le aziende magari prevedono migliaia di uscite, facciamo una fatica enorme e consideriamo un successo se riusciamo ad ottenere un tasso di sostituzione pari al 50%. due lavoratori escono, un giovane viene assunto e questo è considerato un successo. Allora, sicuramente la tecnologia, la digitalizzazione hanno un certo impatto e magari i posti di lavoro che si perdono in un ambito poi si costruiscono in altri, però se i posti di lavoro amministrativi, diciamo così, che si perdono in banca vengono sostituiti da posti di lavoro sotto l'algoritmo da rider, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona rispetto al quale ci dobbiamo interrogare. Poi mi permetto di dire che se le risposte agli interrogativi che ci poniamo sono quelle che emergono dalle urne, e probabilmente dobbiamo ancora domandarci tante cose, senza entrare nel merito, noi siamo sindacato autonomo, seppure con un'impronta che non abbiamo mai nascosto, però abbiamo sicuramente tante domande e tante riflessioni da svolgere. Io mi fermerei per lasciare ovviamente spazio a tutti, se c'è ovviamente la necessità interverrò, e vorrei chiudere ancora con un ricordo e con un saluto di Alessandro Cazzaniga, dicendo solo questo. Molti di voi lo sapete, quando la fine ebbe inizio, quando lui stette male la prima volta, io ero lì con lui, io ero seduto a tavola accanto a lui, siamo stati all'ospedale pronto soccorso insieme fino a non so che ora del mattino per cercare di capire cosa stesse succedendo. Lui con quella forza interiore e non solo, perché a prima vista sembrava la persona più tranquilla, più buona del mondo, ma aveva una determinazione assoluta, era riuscito a venire fuori, era tornato anche al lavoro, aveva ovviamente avuto qualche strascico come è normale che sia, ma ci era riuscito ed era tornato tra di noi. Poi purtroppo sappiamo com'è andata, quindi se noi cerchiamo di onorare nel nostro lavoro tutti i giorni la memoria di Alessandro, non possiamo sbagliare, possiamo solo fare al meglio il nostro lavoro. Grazie. Grazie mille. Allora dico due parole io e poi lascio. Dunque, abbiamo sul tavolo, questo non vi ho presentato, Andrea Fumagalli, che è un economista che lavora all'Università di Pavia. C'è un messaggio che arriva ogni gol arriva un messaggio. E Mattia Cavani, di ACTA, lavora alla rivista Officina Prima Maggio e di Redacta, giusto, anche, che è una, lo spiegherà bene lui come funziona, una sorta di organizzazione di lavoratori dell'editoria. Dunque, i rapporti dell'archivio con voi, diciamo, sono di antica data, questa cosa l'ho detta, ecco, e anche i miei. Io ho partecipato a qualche iniziativa con voi e vedo qua, nella locandina, che sono stato indicato come, io mi chiamo Tommaso Spazzali, sono dell'archivio, per giusto che non mi sono presentato, mi dimentico sempre di farlo, e per questo libretto. Allora, questo libretto, che si chiama Mi fletto ma non mi piego, è un piccolo manualetto che è uscito nel 2000 per Derive e Approdi, che è stata la parte conclusiva sostanzialmente di un lavoro che avevamo iniziato diversi anni prima, e Andrea era anche lui con noi nel gruppo, con quello che allora si era chiamato il collettivo precario di Via dei Transiti, che era un collettivo molto eterogeneo che agli albori, diciamo così, di questo che è il precariato di oggi, cercava di fare delle riflessioni, delle raccolte dati e degli interventi nelle situazioni di precariato più forte. Allora, Tommaso, possiamo dirlo, diciamo, che è stato il primo collettivo sulla precarizzazione sorto in Italia. Il primo collettivo sulla precarizzazione. Ci teniamo. È vero. Allora, gli ambiti dei nostri interventi erano degli uffici piccoli, talvolta messi in degli scantinati, con delle condizioni di lavoro molto dure, oltre che precarie dal punto di vista contrattuale, contributi non pagati. Ci avevamo dei margini di manovra anche giuridici abbastanza grossi per intervenire, ma data la novità del fenomeno erano tutti impreparati completamente ad affrontare questa cosa. E allora però diciamo piccoli ma anche grossi, perché abbiamo fatto anche un intervento molto consistente alla Fiera Campionaria, che è un posto dove lavorano migliaia di persone in fase di allestimento e di smontaggio, tutti in delle condizioni di precariato, almeno allora era praticamente una cosa normale, ecco. La faccio molto breve. Vabbè, il libretto finiva un pochino questo ciclo di esperienze e in qualche modo riporta una serie di indicazioni e suggerimenti che possono, allora potevano essere dati del 2000, andrebbe in qualche modo aggiornato per fare, come si può dire, una risposta da parte del lavoratore precario a questa situazione sul piano giuridico, ma non solo, anche politico, perché delle volte anche solo l'intervento sul luogo, la presenza, era sufficiente a sbloccare delle situazioni di irregolarità. E insomma, dove questa precarietà diventava una forma di sfruttamento e anche proprio di mala salute, ecco, in qualche modo. Va detto che nella nostra riflessione siamo arrivati a vedere che in qualche modo anche la percezione e il rapporto con questa condizione di lavoro precario era diversa, innanzitutto per l'età dei lavoratori interessati, perché i lavoratori in condizioni precarie che avevano famiglia, che erano in qualche modo, avevano magari un mutuo da pagare, eccetera, erano più facilmente sfruttabili, intemoriti, più difficilmente disposti a in qualche modo esporsi in prima persona, mentre invece col tempo quelli più giovani hanno imparato la regola del precariato, hanno fatto loro la regola del precariato e la loro risposta era quella di andarsene. Cioè la loro risposta non era tanto quella di fare una lotta perché le condizioni all'interno di quel luogo mutassero, ma era quella, approfittando del fatto che loro precari erano e al termine erano, se ne sarebbero prima o poi andati, per finire probabilmente in un posto uguale, oppure del tutto simile, nessuno diciamo, però insomma sempre uno sa ciò che lascia, non sa che cosa trova e ha la speranza che la cosa vada, no? Ecco, un salto enorme che ci porta all'oggi mi farebbe dire che oramai questa questione della precarietà del lavoro è entrata nell'ordine di idee per tantissimi, per tutti, i giovani soprattutto, cioè non c'è dubbio che il lavoro sarà così. Il fatto di avere una ipotesi di un lavoro garantito, duraturo, con dei diritti, con delle condizioni trattabili, con, come si può dire, è un'idea che per chi c'è cresciuto ha un senso, per chi cresce giovane oggi lo ha molto, molto meno. Questa cosa senza dubbio è un problema e da questo punto di vista possiamo dire che è stata una vittoria dal punto di vista della controparte, il datore di lavoro nel loro complesso, il capitalismo, non so, prenderemmo noi, nel senso che è riuscito ad imporre un modello proprio anche nella percezione in qualche modo che si ha del mondo. È una cosa con cui sarà in qualche modo necessario fare i conti, no? Perché appunto in questo senso qua è molto difficile, di questo forse poi in qualche modo Mattia potrà dire qualche cosa, appunto la capacità e forse anche la voglia di fare della resistenza su questo è più debole. Nella complessità delle cose si potrebbe anche pensare che in alcuni casi come ipotesi potrebbe avere dei vantaggi, nel senso che l'idea di essere vincolati per tutta la vita in un posto, in quelle condizioni, così potrebbe anche risultare non buona, insomma, no? Però è chiaro che, quanto anche diceva Vigliotti prima, in questo senso qua la precarizzazione corrisponde esattamente ad un innalzamento dei livelli di sfruttamento, no? In qualche modo, e quindi, e la vera vittoria è stata su questo piano qua, cioè diciamo che la introduzione delle forme di lavoro precario, l'esternalizzazione, insieme a quelle che sono state le forme di delocalizzazione territoriale, che in alcuni settori sono state anche consistenti, hanno rotto quella unità dei lavoratori, anche fisica, quella continuità nel quotidiano, no? Che era una premessa fondamentale perché venissero elaborate dei gruppi o dei movimenti o delle azioni di resistenza a quello che gli stava capitando addosso. Cioè è stata una frantumazione sul piano lavorativo che poi ha avuto, diciamo, gli effetti che noi vediamo anche su altri piani. Da questo punto di vista, e qua chiudo, si può dire che, ugualmente essendo una cosa che può avere i suoi vantaggi e svantaggi, secondo me bisogna andare a considerare nella cosa nella loro complessità e dire come stanno, anche adesso l'introduzione dello smart working, okay, vince la stessa battaglia, cioè il lavoratore, che in questo caso potrebbe anche essere non precario, però a casa sua, ridotto a lavorare a casa sua, perde il contatto con gli altri e quella forma che è costitutiva di un gruppo che può dar luogo a un sindacato, ad un'organizzazione, a un'associazione, a una forma in qualche modo collettiva di difesa da quello che è, dei propri diritti, ecco. Quindi diciamo, è un prolungamento. Avevamo inizialmente pensato di fare un pezzo di tavolo sullo smart working, non c'è, però io lo recupererei su questo piano qua, cioè è come se, da questo punto di vista, è come se la strada fosse la stessa, anche se non c'entra sulla questione contrattuale né così. E questa è una cosa che dovremmo imparare a conoscere bene, ecco, e su cui è importante fare i conti. Finisco finalmente dicendo che qua nel centro sociale, o come archivio o come libreria, colpevolmente negli ultimi anni ci siamo occupati poco di lavoro, ci abbiamo occupati di quasi di tantissime cose, il lavoro non è stato. Va detto che negli ultimi 2 anni è il lavoro che si è occupato di noi, perché abbiamo avuto diversi tavoli, quello loro per esempio, Redacta, il tavolo dei lavoratori del sociale, un tavolo dei lavoratori della sanità, il tavolo dei rider, che sono venuti a chiedere, così come stiamo facendo questa sera, un momento di discussione su quella che è. Per cui questo apre un minimo, una breccia di speranza sul fatto che qualcosa succede, è successo fuori e ci è cascato dentro, e questo noi lo possiamo testimoniare assolutamente. Basta, io la pianto, non so, vedete voi come Andrea. Allora, grazie. Io purtroppo non ho conosciuto, ne ho sentito parlare, ma non ho conosciuto direttamente Alessandro Cazzaniga, so che era un grande amico di Primo Moroni, e questo già mi basta, da questo punto di vista. Questo mi commuove un po', devo dire, essere in questa situazione. Allora, io mi occupo di precarietà da quando ero piccolino, diciamo così, da quando all'epoca si parlava di rifiuto del lavoro, che era una forma che non è del tutto scollegata con la tematica che poi è venuta fuori dopo. E me ne sono occupato sia dal punto di vista, io faccio di mestiere, insegno economia politica, quindi dal punto di vista economico, non tanto dal punto di vista giuridico, sono altri ben più competenti, ma soprattutto mi sono occupato di precarietà dal punto di vista militante, più che nel senso di partecipare, cercare di organizzare tutta una serie di movimenti che a Milano, devo dire, hanno avuto un certo peso, se pensiamo alla stagione d'oro di quelli che noi oggi possiamo chiamare i precari di prima generazione, quelli che hanno dato adito alle lotte della May Day, di San Precario, dei vari collettivi, dello spettacolo, che hanno dato origine ad ACT, sul lavoro autonomo. Insomma, c'è stata un certo... Alla situazione, dirò poi due parole alla fine, oggi è molto diversa. Io vorrei dire quattro cose, veloci. La prima è che la precarietà oggi la si può definire con tre attributi. È esistenziale, strutturale, generalizzata. È esistenziale perché non riguarda solo il momento del lavoro, riguarda la vita. Sì. Questo deriva dal fatto che oggi i meccanismi di valorizzazione, di produzione di ricchezza, eccetera, non avvengono solo nell'ambito di un orario di lavoro prefissato, che tra parentesi hanno sempre meno persone. Sempre meno persone sono in grado di dire esattamente quanto lavorano. Anche possono avere anche un contratto, degli orari, eccetera, non è rilevante. Dal punto di vista sostanziale, oggi noi lavoriamo, non siamo in una fase di fine del lavoro, ma siamo in una fase di lavoro senza fine, da un certo punto di vista. La precarietà è diventata, e questo vuol dire che la vita stessa è diventata parte integrante del processo lavorativo, e non si capisce più quando termina il tempo di lavoro e quando termina il tempo, non si capisce più la differenza fra lavoro e vita, in un certo senso. È strutturale perché è diventata la forma dominante del rapporto di lavoro, ed è diventata non come fenomeno congiunturale. Un tempo si diceva: ma la precarietà è il prezzo che i giovani devono pagare per stare 2 o 3 anni un po' precari, perché poi questo è lo scotto per poi avere un posto fisso, un posto garantito, un rapporto stabile di lavoro, eccetera. Oggi la precarietà è diventata strutturale, tant'è vero che le statistiche ci dicono che l'età media ogni anno aumenta. È un fenomeno, come giustamente è stato ricordato prima, che riguarda prevalentemente la fascia giovanile sotto i 34 e i 40 anni, ma i precari cinquantenni, i precari 55-60 anni sono in fortissimo aumento. Questo vuol dire, per dire che la pervasività, dire che la precarietà è strutturale, però pone una serie di problemi, perché questa strutturalità della precarietà si manifesta in forme molto eterogenee, diverse fra loro, e dà adito a percezioni soggettive della propria condizione di lavoro precaria che varia da persona a persona. Questo è un potente, diciamo, strumento di prevenzione alla capacità organizzativa del precariato, perché crea, e questo è un problema che per esempio il sindacato tradizionale non si è mai posto. Ha negato per anni la precarietà, quindi adesso che non può più negarla perché è un dato di fatto, però non si pone il problema di come organizzare i precari e le precarie nelle loro sfaccettature e forme multitudinarie diverse. E soprattutto la precarietà è generalizzata. Qui vengo al tema perché è stato già sollevato da Tommaso Vigliotti, non Tommaso Spazzani. Nel senso che non guarda in faccia il tipo di settore di appartenenza. La generalizzazione della condizione precaria diventa una percezione soggettiva del lavoratore. Una persona intelligente, mediamente intelligente, lo siamo tutti mediamente intelligenti, no? Sa benissimo che anche se ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con tutte le garanzie del caso, in una grande impresa, eccetera, sa perfettamente che questa situazione può cessare da un momento all'altro. È psicologicamente precario, anche se non è effettivamente precario. E questo è una forma di controllo, di ricatto potenziale molto forte, perché basta una delocalizzazione, ad esempio, una ristrutturazione, una cessione di ramo d'azienda, una crisi, e di crisi ce ne sono state tante, no? Non sto qui a raccontarle, per cui non conta più la definizione di precarietà sulla base delle condizioni giuridiche del rapporto di lavoro. Questa è stata una cosa che è stata bypassata dalla realtà, e questo ci pone una serie di sfide enormi. Seconda cosa che volevo dire: oggi, negli ultimi anni, abbiamo assistito a una traumatica processo di ristrutturazione del rapporto di lavoro, che non è la ristrutturazione aziendale classica, ma è la modifica del rapporto che definisce lo stesso rapporto di lavoro, cioè tra lavoro, datore di lavoro e macchina. No? Di solito i rapporti di lavoro, c'è un datore di lavoro, un padrone, continuo a chiamare padroni, ma è il lavoratore più o meno subordinato, più o meno precario, eccetera, eccetera. No? Adesso questo rapporto viene sempre più intermediato da un nuovo uso delle macchine, che sono macchine particolari, sono macchine linguistiche, sono gli algoritmi. Io credo che, io non sono un esperto di settore bancario, ve lo dico subito, però la mia sensazione mi porta a dire che l'evoluzione del rapporto di lavoro nel settore bancario sarà il divenire algoritmo della banca, se possiamo dirlo così. Nel senso, e questo ha preso uno sviluppo potentissimo negli ultimi 10 anni con quello che si definisce lo sviluppo del capitalismo delle piattaforme. La piattaforma è l'intermediazione che gestisce e controlla il rapporto di lavoro e la prestazione lavorativa. Non c'è più il capo del personale, il tempista, il capo reparto, il dirigente, il capo ufficio, tutte queste figure qui. No, è la macchina. Il caso del rider di Firenze che ha ricevuto la lettera mandata in maniera automatica, che era stato licenziato perché aveva portato a termine la consegna perché era morto, è esplicativo, è un estremo ma abbastanza indicativo del tipo di evoluzione e di disumanizzazione e di svilimento dell'attività e della prestazione lavorativa. No? Io credo che il settore bancario sia uno dei settori più ideali perché si svolga questo processo, al di là del processo di digitalizzazione e informatizzazione che riduce il numero di dipendenti, ma questo è un processo che ha interessato l'industria, interessa la grande distribuzione perché ci sono le macchine, le casse automatiche che sostituiscono le cassiere, interessa tutti i settori ed è un processo in corso perché l'innovazione tecnologica, da che mondo è mondo, dalla rivoluzione industriale e dalla nascita del capitalismo, è sempre finalizzata a ridurre la manodopera, se no non sarebbe innovazione tecnologica, no? L'algoritmo però è qualcosa di diverso, non è la semplice innovazione tecnologica che riduce solo il numero degli addetti, che magari poi introduce anche possibili meccanismi compensativi che non sempre sono sullo stesso livello di parità, come è stato ricordato in precedenza, no? Ma cambia qualitativamente il comando sul lavoro e rispetto ai quali dobbiamo iniziare a fare dei conti, perché non è più le forme tradizionali di lotta. Immagino, faccio una battuta, si può scioperare contro l'algoritmo? Perché noi scioperiamo contro i padroni, l'abbiamo sempre fatto, facevi i picchetti, le cose, si fa. Ma scioperare contro l'algoritmo, come funziona? Come funziona? Come ci organizziamo? L'algoritmo poi è coperto da brevetti, da proprietà intellettuale, perché è facile, perché se riuscissi ad avere un'intelligenza tale da poter sabotare l'algoritmo, così come gli operai della catena di montaggio sabotavano la catena di montaggio ai loro tempi, beh, questo è chiaro che modifica i rapporti di forza e pone la necessità di ricostruire questo rapporto su basi contrattuali e di rapporti di potere diversi. Quindi questo è sicuramente un tema aperto. Bisognerebbe organizzare degli incontri su lavoro, algoritmo, no? E capire. Il caso eclatante sono i rider, perché è la punta di un iceberg, ma sotto la punta c'è un corpo enorme nascosto sott'acqua che spesso noi non vediamo. L'altro punto che volevo trattare, mi avvio alla conclusione, è che credo che in queste condizioni, in realtà sono 3 punti, perché ne ho detto 4, ma un punto forse me lo sono dimenticato. Vabbè. No, vabbè, dai. Vabbè, quello vabbè, ne parliamo. Adesso non ne parliamo. L'altro punto è che questa precarizzazione del lavoro mette in moto un circolo vizioso di incertezza: più la persona è incerta, più è depotenziata nella sua capacità di contrattacco, di sviluppare forme di contropotere. Più la precarizzazione porta, attraverso lo smart working, la domestication, alla prevalere dell'individualizzazione del rapporto di lavoro, no? E spesso questo rapporto di lavoro, come dicevo prima, è mediato direttamente dalla macchina, è un qualcosa di etereo, di neutro, di non definibile, no? E quindi diventa sempre più difficile riuscire a organizzare forme di resistenza all'interno dei singoli luoghi di lavoro. No, prendere atto di questo non significa dire, beh, allora chiudiamo baracca e burattini, andiamo a casa perché che niente fa, no? Credo che noi dobbiamo trovare un livello superiore sul quale imbastire una capacità conflittuale. E credo che questo altro livello sia il tema, io lo dico da anni, il tema del welfare e della sicurezza sociale. Oggi welfare e lavoro sono strettamente interrelati. Credo che la metafora che ci dà l'idea di questo è il concetto di welfare aziendale, no, per dire, su cui non voglio intervenire perché sarebbe tanto da dire, e personalmente lo trovo una cosa molto criticabile, mi limito a dire soltanto questo per usare parole gentili. Ma il tema della sicurezza sociale, il tema di passare dal lavoro garantito al reddito garantito come un possibile strumento per ridurre il principio di ricattabilità del lavoratore che si sente potenzialmente precario anche quando magari non lo è, ma che sa che nel caso succeda la cosa che lui vorrebbe che non succedesse, perde il lavoro di qua, di là, è indotto, subisce mobbing, è indotto all'autolicenziamento, le dismissioni, perché succedono tutte queste cose qui, sa che c'è una rete di sicurezza sociale che gli permette di esercitare forse il diritto più grande che noi abbiamo, che dovremmo avere e che oggi abbiamo ancora meno di quanto fosse 50 anni fa, cioè il diritto all'autodeterminazione, cioè il diritto alla scelta. Se c'è un articolo che io cambierei della Costituzione italiana, è l'articolo 1, che tutti dicono, tutti fanno, quella sinistra, il sindacato fa costantemente riferimento, come l'ha fatto la manifestazione della CGIL oggi pomeriggio a Roma. Cioè che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Io lo cambierei e direi l'Italia è una Repubblica fondata sul diritto alla scelta del lavoro. E secondo l'articolo numero 2, lo Stato e qui per esso le istituzioni devono eliminare tutto ciò che impedisce che questo diritto di scelta, formalmente dichiarato nella Carta Costituzionale, diventi effettivamente esigibile. Quindi devo avere e garantire maggiore sicurezza sociale sia attraverso forme di reddito diretto sia attraverso forme di reddito indiretto, ovviamente, qui non voglio aprire il discorso, aiuta a chiedere un salario minimo innanzitutto, no? Perché le due cose sono strettamente connesse, e dà quella forza di riduzione della ricattabilità e dell'incertezza che oggi frena le lotte, al punto tale che lui ci ricordava che spesso sono i sindacalisti che chiedono ai lavoratori di non iscriversi al sindacato, cioè siamo al paradosso da questo punto di vista. Per quanto quella cosa che diceva lui, oggi sicuramente negli strumenti di lotta, nel momento stesso che oggi la produzione e la creazione di ricchezza, soprattutto nei servizi avanzati, e io ritengo il settore del credito come il settore finanziario dei servizi avanzati, no? È una produzione che avviene per flussi, dove la parte valorizzante sono i flussi informativi, no? Bisogna trovare degli strumenti adeguati perché questi flussi siano in qualche modo tagliati, bloccati, interdetti, insomma qualcosa. Lo sciopero generale è uno sciopero per flussi oggi. Bisogna bloccare il flusso delle merci, bloccando i caselli delle tangenziali, ad esempio, dove ci sono tutti gli hub di posizionamento delle merci, la zona di Milano Sud è piena. Il flusso di informazioni è il flusso di persone attraverso i meccanismi del trasporto. Immaginate un sogno, dico, non si realizzerà mai, perlomeno a breve termine, ma in cui tutti questi blocchi di questi tre flussi principali, che oggi sono la base su cui si sviluppa l'organizzazione produttiva, vengono in qualche modo bloccate per un certo periodo. È chiaro che per pensare a una cosa del genere bisogna costruire i rapporti di forza, gli strumenti, i processi di soggettivazione, di coscienza adeguati, quindi il lavoro è un tempo, si dice, una lotta di lunga durata, ma è una lotta che deve essere fatta comunque. Buonasera, ciao. Insomma, grazie agli altri interventi, tutti stimoli molto interessanti. Proverò a dire delle cose che non sono state dette, però su molte cose sono d'accordo. Sì, forse è utile spiegare un attimo cos'è ACTA, perché magari non è che sono tutti. Ecco, diciamo che mi ha suonato molto la cosa che ha detto sia i due Tommaso, cioè il fatto di dare per scontato la precarietà. No, io sono nato nel 88 e vabbè, come potete immaginare, mi ritrovo in questa cosa. ACTA stessa è nata nel 2004 invece, e di fatto sin da inizio ha avuto un sindacato di freelance, lavoratori autonomi. E lì, dato per scontato, l'autonomia delle persone, e la sfida è sempre stata cercare di tutelare queste persone, e così partendo dalla constatazione che insomma, l'autonomia ha anche dei vantaggi, è una situazione problematica, e quindi cercare di sviluppare delle strategie per evitare di dire ok, il lavoro non dipendente non può essere tutelato, l'unico modo per tutelarlo è riportarlo in qualche modo sotto il lavoro dipendente. Cioè, questa è un po' una mancanza di fantasia a un certo punto, anche perché magari per certi ambiti è applicabile, cioè, chiaramente quando c'è una esternalizzazione forzata così con cessioni di rami d'azienda è chiaro che si tratta di finto, di lavoro precario che viene usato in maniera opportunistica, però in certi ambiti il lavoro autonomo ha una ragione d'essere, pensiamo, non so, in molti ambiti, nell'ambito culturale per esempio. E, ecco, la storia di ACTA quindi è la storia di tentare in un primo momento di trovare, di ricostruire un quadro di diritti che erano totalmente assenti per i lavoratori autonomi, e dunque cominciare a pensare, ah, ma lavoratore autonomo, lavoratrice può avere la maternità, la malattia, cioè cose, siamo proprio, eravamo proprio alle basi, non c'era nulla all'epoca. E quindi insomma, nel 2017 finalmente dopo anni siamo riusciti a ottenere almeno il costo del lavoro autonomo, maternità e malattia, e anche una legge sull'equo compenso che però non è mai stata applicata. E il punto però, Tommaso parlava di Red ACTA, è che a un certo punto come ACTA si sono resi conto che era molto difficile parlare di compensi avendo un approccio trasversale, cioè un approccio che guardava tutto il lavoro autonomo, quindi a professioni molto diverse, anche come redditi diversi. E qua anche il discorso generazionale è molto interessante, perché all'inizio ACTA era proprio il lavoro autonomo tipico, anche a redditi abbastanza alti, cioè immaginatevi informatici, consulenti, ricercatori fondamentalmente. Tutti ambiti che sono impoveriti, certamente, però sono arrivate anche poi tutte le professioni culturali, come io lavoro nell'editoria libraria, o altri ambiti in cui l'esternalizzazione del lavoro è una cosa che va avanti da anni, è solo che con la digitalizzazione si è velocizzata tantissimo. E dunque abbiamo detto, ok, per parlare con l'INPS e con lo Stato va bene guardare tutti i lavoratori di questo tipo, però se dobbiamo parlare di soldi, che è il problema principale di queste persone, è meglio focalizzarsi su un ambito ristretto. E dunque con Red ACTA la sfida in questi 3 anni è stata quella di cercare di costruire delle forme di lotta, delle forme di sia di lotta ma anche di mutuo aiuto tra le persone che lavorano in questi ambiti. Una cosa che non è ancora venuta fuori, non che vorrei, cioè, è stata citata, però volevo metterci un accento, cioè questa individualizzazione del lavoro, questa polverizzazione ha, e questo è il problema principale che abbiamo noi, ha un effetto sulla psicologia della persona spaventoso, cioè seriamente persone che fanno un lavoro simile si sentono in una totale competizione le une con le altre, totale, cioè non c'è una, è molto difficile vedere una solidarietà tra magari due persone che traducono libri o immaginatevi o che fanno degli editing o che fanno così, tendenzialmente ci si percepisce come nemici, avversari, e questo è un problema enorme per chi deve fare sindacato, no? E poi chiaramente le altre caratteristiche problematiche di questa situazione qua abbiamo dette, no? Cioè non c'è un luogo di lavoro condiviso e quindi è praticamente, non sappiamo neanche dove andare a trovare spesso lavoratori e lavoratrici. C'è stato per un periodo, forse l'ho già dimenticato, quindi è inutile citarlo, però il periodo in cui si diceva i co-working saranno i luoghi in cui verrà la ricomposizione, ma in realtà no, a parte che comunque sono abbastanza cari i co-working, almeno per me, insomma, quindi non è che possono tutti permettersi di andare al co-working. Ma poi ricordava Sergio Bologna, che è un po' a memoria su questa cosa, diceva guardate che noi come ACTA quando andiamo a dire ai co-working facciamo un incontro sui diritti, così dicono non si può fare, invece se si tratta di dire facciamo un incontro sulla valorizzazione del professionista, così subito mille ponti, venite. E dunque c'è un problema veramente, non so se definire ideologico, psicologico, antropologico, però è molto serio da questo punto di vista. E tutto questo mischiato con il fatto che il lavoro e l'identità professionale è qualcosa che, appunto dicendo il fine del lavoro mai, diventa una cosa, cioè, che non si distingue più dal resto della vita. E dunque abbiamo detto, ok, allora se il lavoro, se l'identità professionale è così forte, proviamo a organizzarci per identità professionali, perché almeno magari riusciamo a costruire un linguaggio condiviso. E da questo punto di vista qua, in effetti ha funzionato. Cioè se tu dici, ok, invece di mettere insieme il videomaker e il consulente informatico, metti insieme la redattrice, l'editor, la traduttrice, almeno c'è un'abitudine, gli stessi committenti, datori di lavoro, anche una cultura simile, un passato simile. E dunque questa cosa qua ha funzionato. E poi il passaggio alla lotta ovviamente è un po' più complicato, però insomma... adesso abbiamo avuto un episodio con un editore, il saggiatore, che è stato un episodio, vabbè, poi nel caso possiamo andare più nello specifico, però fondamentalmente è stato un comportamento molto scorretto da parte di questo editore verso tutti i collaboratori esterni, che però si, al contrario di altri collaboratori, si incontravano una volta al mese alle nostre riunioni. E quindi loro non si aspettavano ovviamente che questi esterni, si aspettavano che veramente combattessero gli uni con gli altri o che cercassero magari di riavere il posto abbassando ancora la tariffa da fame che avevano. E questi qua si sono trovati e hanno detto, vabbè, il lavoro probabilmente è perso, però almeno vediamo di far diventare pubblica sta cosa di colpire la reputazione dell'azienda, che per una casa editrice è la cosa fondamentale, perché è l'unica cosa che hanno, è il marchio, no? Quindi se tu al marchio associ certi valori... E dunque, la cosa interessante di quell'episodio lì, e qui magari, se volendo, c'è anche Giulia che potrebbe raccontarlo meglio di me, però è stato un processo che stavo dicendo prima di soggettivazione. Cioè, nel senso, nel momento in cui ci sono 10-15 persone a cui succede tutta la stessa cosa, negativa, alcuni perdono 10.000 euro l'anno, alcuni perdono 1.000 euro ovviamente, quindi c'è anche questa segmentazione, no? E quindi uno dice, vabbè, ma questi qua cos'è che faranno? Andranno a trovare un altro lavoro e basta, cercheranno di competere tra di loro per fare un'altra cosa. Invece semplicemente il fatto di venire alle riunioni, di trovarsi allo stesso luogo fisico in qualche modo, e il fatto comunque di essere a Milano, quello ha aiutato sicuramente, queste persone qua hanno detto, cioè noi abbiamo visto partecipando a queste riunioni, io non ero coinvolto direttamente in questa vertenza, che è veramente cambiata la psicologia di queste persone, cioè si sono trovate veramente a essere solidali. E il momento in cui si sono dette quanto avrebbero perso ognuna, e quindi si è creata, si poteva creare una sorta di gerarchia, perché dice, ah, io perdo 10.000 euro, quindi in questa roba qua, cioè, c'ho più da perdere di te che sei troppo giovane, che fai dei lavori fatti male, che ne so. Poteva... Invece quel momento lì è stato un momento di coesione più forte, perché di empatia vera, perché ha detto, va bene, io perdo 10.000, però siamo tutti, per te 1.000 magari sono tutti perdenti. Stiamo perdendo tutti. E quello però secondo me è stato un esperimento secondo me molto interessante, che ti fa vedere che nonostante una cultura che insomma, ti spinge verso queste robe qui, ci sono dei percorsi che puoi fare. E però secondo me la soggettivazione passa necessariamente dalla lotta, da rischiare insieme. Cioè è stato quello, perché alla fine il rischio lì, il lavoro era perso. Però diciamo che voler dare la stoccata all'editore è stato un rischio ulteriore, perché comunque c'è un rischio di ovviamente ricatti, sapete, i mercati del lavoro qua sono molto ristretti, quindi magari si viene a sapere che te sei qualcuno che rompe le scatole, rischi ancora il lavoro. E quindi sì, cioè quindi per aggiungere quello che dice Andrea, sì, sicuramente il welfare così, però se vogliamo parlare di soggettivazione, io vedo che se non si passa dal conflitto o comunque da una presa di responsabilità condivisa sulla qualità del lavoro e su come uno passa il tempo che lavora, è molto difficile andare oltre la sopravvivenza, non so come dire, forse possiamo avere uno spunto, non so. E poi che altro dire? La cosa che mi è venuta in mente prima è la delocalizzazione, che chiaramente in ambito bancario per certe magari operazioni è possibile andare all'estero e avere così. In ambito, per esempio, nel mio ambito editoria si lavora con la lingua italiana, quindi in realtà non ci può essere una delocalizzazione fuori. Però ci può essere una delocalizzazione fuori dalla contrattazione collettiva, perché di fatto è quello che è successo. Per comprimere i compensi, abbassare i costi fissi delle aziende, tu prendi dei lavoratori e lavoratrici che cosa sono? Gente che ti contatta e tu dici, ok, questo lavoro qua me lo fai per X. Qual è X? È buono, è cattivo, non è... Su questo aggiungo altre due cose. Allora, sulle piattaforme abbiamo incontrato come ACTA questo gruppo che lavora su piattaforma che traduce i sottotitoli di Netflix o di queste nuove piattaforme qui. Questi qua sono in una situazione incredibile perché sono praticamente sparsi in tutto il mondo, lavorano, sono, parlano italiano, però ce n'è uno in Giappone, uno sono cioè, lavorano per una subfornitura che ha sede legale a Singapore, però è un'azienda della Corea del Sud. Sì. Singapore, c'è cioè un diritto del lavoro spassosissimo, ovviamente, quindi loro sono inquadrati con quella roba lì. E quindi, cioè, immaginatevi una situazione peggiore di quella lì per cercare di organizzare così, tutti chiamati attraverso piattaforma, quindi anche lì diventa tutto impersonale, il comando, ti arriva un'offerta, dici ti vai a tradurre sta roba entro domani a questo prezzo. E questi qua però attraverso la piattaforma, è una piattaforma che metteva a valore anche la collaborazione tra chi lavorava, ovviamente. E quindi loro attraverso quella piattaforma lì in cui comunicavano per lavorare, a un certo punto hanno cominciato a dire ma non possiamo usarla per comunicare, per contrattare collettivamente. E sono accorti che, cioè, alzando un attimo la testa, uscendo un attimo dalla loro individualità così, cioè, che praticamente cioè, conoscevano quasi tutte le persone che lavoravano per la traduzione italiana per quella piattaforma lì. E quindi da qualche mese che stanno facendo una trattativa sui compensi, che era una cosa che non era neanche immaginabile qualche mese fa, però non, questo non è stato col nostro, cioè abbiamo confrontati con loro, però hanno fatto, cioè il passo hanno fatto loro veramente. Ultima cosa, abbiamo parlato di leggi, questa cosa qui antropologica della conflittualità tra lavoratori c'ha anche delle basi legali, cioè almeno le ha avute per anni, cioè il lavoratore autonomo a parità IVA viene considerato, per semplificare al massimo, poi se volete posso andare un pochino più nello specifico, però dalle leggi europee un'azienda fondamentalmente. E quindi alle aziende si applica l'antitrust. Allora, quando ci sono le grandi concentrazioni delle, non so, cioè, non so, pensate Amazon che quote di mercato ha, in quel caso l'antitrust, non so se viene dimenticato evidentemente, però quando ci sono dei lavoratori che devono colludere per magari mantenere delle tariffe più alte, e magari vivere dopo lavoro, ecco lì c'è l'antitrust che con dei traduttori e traduttrici è intervenuto una volta in Italia. Ok, perché sono aziende, come se facessero cartello, come si mettessero d'accordo sul prezzo di una marmitta o su, no? Certo. Ecco, giovedì scorso, dopo anni di stati alcuni casi di, in Olanda, di processi finiti alla Corte Europea e anni di Commissione Europea che ha messo, che ha chiesto anche a noi di ACTA di dare delle indicazioni su questa cosa, perché si erano accorti che era un problema non permettere ai lavoratori che sono lavoratori di contrattare collettivamente. Ecco, da giovedì sono state pubblicate queste linee guida che hanno aperto alla contrattazione collettiva dei lavoratori autonomi, seguendo anche l'esempio dei rider che hanno di fatto hanno sollevato questo problema. Quindi sono anche problemi nostri adesso, nel senso che si è aperta una finestra di possibilità notevole per noi, cioè in teoria, adesso stiamo confrontando, però potremo accedere alla contrattazione collettiva, che sicuramente negli ultimi anni, nel senso, non è che è stata così coraggiosa in molti settori, però sicuramente ha fornito da argine, quantomeno per l'inflazione, per esempio, che di questi tempi è molto complicato. Quindi probabilmente dovremo cambiare il nostro modo di fare sindacato e sarà magari impareremo qualcosa dal sindacato dei dipendenti. Però, non lo so, questo è uno spunto, potrebbe cambiare qualcosa. Certo che con la situazione economica che abbiamo all'orizzonte, speriamo che non sia troppo tardi, perché è veramente pessima. Con questa nota allegra, ciao. Ti posso, una piccola cosa di questo, seguendo proprio l'ultima cosa che diceva Mattia. 3 settimane fa a Bruxelles c'è stata una riunione delle collettive dei sindacati più o meno auto-organizzati dei riders di quasi tutti i paesi europei, che ha proprio discusso esattamente di questa problematica, e perché un discorso che sicuramente va fatto è per quanto riguarda queste forme spurie, precarie, deregolamentate eccetera, è muoversi sul piano europeo. Questa è una difficoltà in più, perché non è facile, però è una grande opportunità, perché sul punto di vista del diritto europeo ci sono più possibilità di quanto ci sia a livello nazionale. Ancora. E questo può essere un vulnus, che insomma è uno strumento, non c'è, credo che noi dobbiamo imparare a non ragionare sempre, individuare lo strumento, ma individuare gli strumenti. E per seguire noi dobbiamo essere più flessibili di quanto sia flessibile il padrone, per essere in grado di muoverci al suo livello e alle sue trasformazioni, eccetera, eccetera. Questa era tanto questa piccola precisazione. Va bene. Ora sappiamo che quando vediamo un film su Netflix, dietro quei sottotitoli c'è una persona che lotta. A volte. A volte c'è una persona che lotta dal Giappone. E, come facciamo? Noi avevamo detto cena 7:30, di là più o meno tenevano questo cosa. Abbiamo iniziato più tardi, se vogliamo fare un, so, qualche duno. Ecco. Ecco, vieni qua perché abbiamo il microfono che registriamo. Siccome ho avuto un'esperienza anche diretta partecipando a una manifestazione dei riders, e è saltato fuori che uno ha detto: ma noi siamo, ognuno è sindacato di se stesso. Allora le domande sono due: è possibile dare solidarietà tra categorie diverse dopo tutto quello che avete detto in questo momento? Ed è possibile anche cambiare, o è endemica nei giovani o in queste ultime forme di lavoro, il fatto che ognuno deve prima pensare a se stesso? Tu hai dimostrato di no, avete detto altre cose, però ecco, questo è il problema. Si riesce a dare, io sono entrato in banca, che ho partecipato dopo neanche 10 giorni a uno sciopero per il rame in Cile, ormai no, ma senza capire neanche, sì, sono vecchio. Allora, senza neanche capire fino a che punto, che cazzo c'entra se il rame in Cile, no? Che poi è chiaramente la politica tua, però si andava, c'era comunque una empatia anche su altri mondi, su altri mondi. Molti di noi che lavorano nelle agenzie si trovano ovviamente in agenzie di banca davanti a lavoratori che perdono il posto di lavoro, che non riescono a pagare il mutuo, che altre cose, ed empatizzi anche per una forma mentale, anche per nei lavori che fanno loro, ma e in tutti c'è quasi questa desolazione per dire: ma non c'è solidarietà degli altri. Ah beh, sono contento che tu mi parli, tu hai un altro lavoro, sei a posto, poi magari appunto pensi che tu lavorando di qui hai un lavoro che non è precario, che è tutto a posto, sicuramente migliore a volte tu, e io per dire quello che era successo, che succedeva allora, io mi sentivo quasi in colpa perché arrivavi da una posizione privilegiata rispetto agli operai, rispetto agli altri, e quindi ti facevi sempre una colpa anche dei tuoi stipendi, che man mano sempre meno, ti dico, negli ultimi anni sempre meno, sempre meno. Quello che hai detto, i loser, i perdenti sono cominciati ad entrare anche da noi, e in quest'ultimo anno l'abbiamo visto a maggior ragione. Ecco, la domanda era però appunto: si può ancora solidarizzare secondo voi tra categorie diverse, tra gente diversa? Noi siamo qui anche per dare quel segnale. No, non si può assolutamente. No, no, scherzo. No, secondo me non c'è un'altra via. Anche è un'altra cosa che non ho citato prima, perché in effetti si veniva un pippone troppo lungo. Però parlando di esternalizzazione del lavoro, no? Cioè, l'esternalizzazione non vuol dire che tu prendi della gente che lavorava da una parte, la spedisci da un'altra, e poi con quelli lì sì, ogni tanto c'hai a che fare, così. Non è così semplice. Cioè, almeno dal nostro punto di vista, nel nostro settore, cosa succede? Cioè, che tu più esternalizzi, più il lavoro di chi è dentro diventa un lavoro di coordinamento. Cioè, non è più un lavoro vero, ma è di coordinare tutti questi lavoratori che non vivono insieme, non si incontrano, fanno casino, servono delle regole comuni, bisogna trovare i tempi, bisogna trovare così. Quindi quello che dico è che l'esternalizzazione sicuramente per i lavoratori autonomi diventa una questione di compensi, diventa una questione di contrattazione individualizzata, però per i dipendenti, cioè, diventa una questione di intensità del lavoro, perché tu più esternalizzi, più è complicato da coordinare. Cioè, non è più come una redazione che si crea una cultura condivisa, si crea così. E dunque per noi, che nelle prime fasi di ACTA questa cosa qua non era neanche percepita come un problema, per noi è fondamentale il rapporto con i dipendenti. Cioè, alle nostre riunioni troviamo tanti dipendenti che credo che trovino in noi anche una prospettiva di cambiamento del settore che magari appunto altrove non trovano. Un'altra cosa è appunto, ne ha fatto citata Tommaso prima, di esempi di solidarietà. Il 14 luglio dell'anno scorso qui in Calusca abbiamo fatto un incontro che si è chiamato Cartalotta, e per una serie di coincidenze, tra l'altro insomma, c'era a Milano persone che si occupavano, che passavano da lì di logistica, lavoro autonomo, c'era ovviamente Sergio Bologna ma tanti altri ricercatori più giovani, e siamo riusciti a mettere insieme un incontro con i Sicobas di Stradella, che vabbè, appunto ci sono alcuni pavesi tra di voi, giusto, sapete dov'è, che avevano appena fatto uno sciopero nel più importante magazzino di distribuzione editoriale d'Italia. E dunque a noi ci è venuto spontaneo dire: ma sapete cosa facciamo? Allora, noi abbiamo fatto quella cosa del saggiatore, ok, voi avete fatto uno sciopero, facciamo un incontro qui, qui alla Calusca, che era il luogo perfetto per tanti motivi che insomma sapete anche come storia. Ed è stato un incontro bellissimo, super partecipato, in cui ci si è raccontati un po' i problemi condivisi del lavoro. È stato un momento di vera solidarietà. Poi ci hanno detto loro a noi che la siamo insomma messi parecchio male, che uno magari pensa il facchino e il traduttore, però in realtà è il facchino che diceva: ma come fate a vivere così? Quindi diciamo che però cioè, anche queste cose qua, cioè questo momento qua che magari è una risata, magari così, però è un momento anche di prendere consapevolezza non solo individuale, proprio cioè collettiva, di dire ok, il libro è lo stesso, Amazon che ci comprime i compensi, i prezzi e anche aumenta l'intensità del lavoro, ci riguarda tutti, ovviamente non è che c'hai la ricomposizione verso i soldi dell'avvenire, però è un primo passo, è un momento bello, un momento anche come quelli che ho visto nella vostra manifestazione quando sono venuto, quei momenti anche in cui si canta e ci si trova insomma quel lato anche emotivo e di insomma affettivo, diciamo, di questa cosa che appunto con dei lavoratori tutti isolati che lavorano da casa è un po' difficile da trovare, quindi quando c'è occasione va presa subito. Su questo vorrei dire qualcosa anche io, una riflessione, anche perché quando Piero mi raccontò questo episodio che poi culminò con la richiesta di togliere dal nostro sito le foto di quella manifestazione, cioè noi avevamo partecipato con Piero, con Josef, con l'idea appunto di possiamo sostenervi in qualche modo, no? Comunque siamo sindacato a nostro modo, comunque abbiamo un minimo di struttura, anche consulenze legali, qualsiasi cosa, e invece è partito questo atteggiamento, come dire, individualista, particolarista, culminato nella frase ognuno è sindacato di se stesso, e addirittura cioè loro pensavano noi andavamo lì per accaparrarci visibilità su una battaglia che non era ecco. Allora io credo, questo l'ho detto per anni in aule, in corsi di formazione, non vorrei fare pistolotti, poi però chiedo conferma a un docente, no, di un'analisi molto sintetica ma di questo tipo. Noi abbiamo avuto qualche decennio di conflitti e di lotte sindacali terminate con la conquista, no? Quindi il 70 possiamo dire si arriva al culmine della conquista nell'ambito del diritto del lavoro con lo statuto dei lavoratori. Da lì in avanti parte prima una fase magari, come dire, di stabilità, perché poi c'è i problemi, no? Le crisi, l'austerity e così via. Poi io lo localizzo, lo contestualizzo più o meno nell'epoca del thatcherismo e del reaganismo, c'è il prevalere a livello proprio di cultura, a livello globale, di una cultura iperindividualista, neoliberista, il mito del self-made man o il timore di essere un perdente, un loser, che si è impadronito e ha portato una atomizzazione nei rapporti di lavoro. Qui oggi anche nelle aziende, io conosco meglio le banche ovviamente, ma dico in generale, nelle aziende dove c'è appunto il lavoro dipendente, dove ancora persistono, permangono, nonostante la truffa dello smart working, dico truffa perché lo smart working nasce come sistema che alterni e che faccia convivere, no? Il lavoro in ufficio col lavoro in altre sedi. Stare sempre a casa è altro, è telelavoro, che avrebbe tutta una serie di diritti per i lavoratori e di responsabilità per le aziende, però guarda caso quando io vado in trattativa l'azienda vuole portare al 100%, ma cosa, lo smart working, ma il telelavoro. Scusate la divagazione. Allora, pensare che ci si difenda da solo, che ognuno si occupa di se stesso, che mi rivolgo, e questo noi a tanti RSA che sono anche qui presenti lo sentiamo spesso dai lavoratori, dico io mi rivolgo al sindacato se ho bisogno, diciamo sempre no, quando riterrai di aver bisogno è già troppo tardi, lì forse avrai bisogno dell'avvocato, non più del sindacato. Allora noi dobbiamo fare, e questi incontri e queste occasioni secondo me sono importantissimi, ben al di là del numero dei partecipanti, ma andrebbero diffuse e moltiplicate, perché bisogna fare cultura. Cioè l'unica speranza che noi abbiamo, così come un certo tipo di ideologia iperindividualista ci ha impiegato magari 2-3 decenni per affermarsi e ne sta beneficiando da altrettanti 2-3 decenni, noi dobbiamo fare riscoprire da un lato come lavoratori la cultura della mutualità, cioè se insieme, perché ormai ci avremmo sbattuto la testa che singolarmente verso il datore di lavoro siamo più deboli, se mettendoci insieme, ed è così che nasce il sindacato, possiamo riuscire a rivendicare, di riscoprire questo termine, no? Quasi dimenticato, rivendicare la rivendicazione, rivendicare i diritti e rivendicare pure i soldi, sì, rivendicare i soldi, perché là non voglio proprio una sede come questa, no, fare discorsi, quindi, di natura iperproletaria, diciamo. Però la distribuzione della ricchezza va sempre più verso la concentrazione e invece l'impoverimento delle masse, basta guardare le statistiche. Allora i lavoratori devono riscoprire la mutualità, il sindacato deve riscoprire il conflitto. Il conflitto non è l'alternativa a fare accordi sindacali. Il conflitto è lo strumento attraverso il quale gli accordi sindacali siano accordi, come dire, raggiunti più o meno a metà strada, ok? A metà strada. Perché quando si firmano accordi sindacali, nel totale appiattimento delle posizioni del sindacato sulle richieste del datore di lavoro, quello è notariato, non è trattativa sindacale. E noi che lo facciamo tutti i giorni sappiamo bene di che cosa stiamo parlando. Quindi anche su questo il sindacato ha un grosso compito, e a me fa piacere invece scoprire, ascoltare qui in questa sede che alcune esperienze che nascono appunto, no, come lavoro autonomo hanno capito ciò che magari invece lavoratori dipendenti molto spesso hanno dimenticato, cioè dobbiamo darci una mano, metterci insieme, e la dimensione sovranazionale è una dimensione importante secondo me, non solo perché magari la legislazione a livello europeo è oggi un po' più protettiva di quella nazionale, sicuramente di quella italiana, ma perché la forza delle aziende, soprattutto nelle multinazionali, in cosa sta? Sta nella capacità di delocalizzare con estrema facilità, di spostare velocissimamente posti di lavoro da un'azienda all'altra e quindi fare dumping salariale. Non accetti di tagliarti lo stipendio? Bene, perdi il posto di lavoro, vado in Romania. Banalizzo, ma è così. Allora la dimensione sovranazionale dovrebbe portare le istituzioni europee, ma forse anche mondiali, diciamo così, il tema del salario minimo, che è un tema molto intrigante e anche molto complicato, no? Perché fatto in un certo modo potrebbe addirittura danneggiare, sappiamo in passato i sindacati come lo osteggiavano, però ad esempio portare un tema come un salario, chiamiamolo universale, ed impedire il dumping salariale e quindi innalzare, no, anche il livello di salario nei paesi dove invece i redditi sono inferiori, potrebbe questo, non è semplice, ma potrebbe questo comunque depotenziare l'arma e il ricatto che hanno le multinazionali. Mi veniva questa riflessione, ecco, ma ci sono tanti temi secondo me da sviluppare. No, io direi che possiamo andare a cenare. Marx diceva che oltre allo sviluppo delle forze produttive, eccetera, uno degli elementi per la soggettività, per poter fare una trasformazione del reale, era la concentrazione. La precarizzazione ha rotto questa concentrazione, però diceva anche che i lavoratori, gli operai, allora era, di queste cose discutono nel bistrò, nell'osteria la sera, e quindi forse è giunto il momento anche per seguire questa indicazione, mancandoci la prima, e quindi non so, direi che andiamo a mangiare, tra l'altro mi hanno detto che è quasi pronto, allora si mangia così, cioè fuori, siamo fuori, portano da mangiare al tavolo. Metteremo una cassetta per chi vuole dare un contributo per le spese della cena, e che cosa c'è? Allora, polenta, salsiccia e aspetta, una terza, e il riso. Se qualcuno non è vegetariano, non vuole la salsiccia, lo dice e c'è un'altra cosa. Al posto della salsiccia c'è una specie di una buonissima minestra d'orzo asciutta, cioè non prodotta, ecco. Ecco, e poi ci sono i salami che tu presenti, di vario tipo, vabbè. Ok, ok, ok, ok, ok. Ci sono dei salami buonissimi. No, abbiamo i salami che il buon Veronelli aveva citato come miglior salame d'oca. Il miglior salame d'oca, esatto. Ecco, li avremo, esatto. La bevanda invece è al bar e quella si paga. Mangiare, se vi sedete lo portiamo, se non c'è, vabbè, basta, se lo sedete lo portiamo. Io mi scuso, ma purtroppo vi dovrò lasciare, cercherò magari per sentire la musica dopo cena, perché devo passare a casa perché c'è per problemi familiari, diciamo. Grazie. Però vai, porta a casa un pezzo di salame d'oca. Vai a fartelo dare. Vai a fartelo dare. Questa mescolanza è... Aspetta che tolgo... Piano. Più alto. Adesso? Adesso ancora si un sente, pochino. Sì. Si sente, forse, sì. Vado. Si può partire? Allora, proseguiamo la giornata con un momento un po', io direi, clou, no? Nel senso che viene intitolato il fondo ad Alessandro Cazzaniga dentro l'archivio Primo Moroni. È una cosa grossa, è una cosa che ci riempie di orgoglio, perché veniamo da storie molto lontane e nello stesso tempo di fratellanza, no? Con il centro sociale, con l'archivio, con l'archivio e con la libreria Calusca e soprattutto con l'indimenticabile Primo Moroni. A dimostrazione di questo faremo, e a ricordo ovviamente, faremo partire un filmato molto breve che andrà a ricordare non solo Primo Moroni, ma anche momenti in cui le nostre strade, come spesso accadeva, si sono incrociate. Prima di far partire però il filmato, io vorrei leggere una lettera che nel 2009, quando questo centro sociale, il sindaco di allora Letizia Moratti voleva sgomberarlo con tutto, con l'archivio, con la libreria, con tutta la storia, la cultura che passa qua dentro, c'è stata una grande mobilitazione che ci ha visto ovviamente in prima fila, no? E personalmente scrissi una lettera al sindaco Moratti che vi voglio leggere. Quel giorno Primo Moroni mostrò a me e a mia moglie come fosse riuscito a restituire decenza, bellezza e anima a un pezzo di terra ricoperto di rifiuti, sporcizia e altre porcherie. Quel giorno Primo Moroni ci spiegò che quella terra e quei giardini e quelle piante e quei fiori erano stati restituiti al quartiere e alla città dai pensionati del quartiere e quindi della città. Quel giorno Primo Moroni ci regalò l'ennesima lezione, lui che docente non è mai stato, ma maestro ed enciclopedia sì, ci regalò l'ennesima lezione di come si comunica con chi ha orecchie ed è disposto persino ad usarle. Quel giorno Primo Moroni trasformò illegalmente, senza bisogno di permessi, una discarica cittadina, quella sì legale, in un giardinetto di piante e fiori curato, voluto e frequentato dai cittadini del quartiere. Quel giorno Primo Moroni spiegò e dimostrò che una cosa, per essere bella e utile, non ha bisogno di essere necessariamente legale, soprattutto quando non invade la libertà degli altri. Quel giorno, ma è abbastanza maledetto, il 31 marzo del 98 Primo Moroni ci lasciava. E anche il giardinetto non sarebbe più stato lo stesso. Quel giorno, il primo di aprile del 98, tutti, ma proprio tutti i giornali, scrissero e piansero la morte di Primo Moroni. Io li conservo tutti e oggi li ho riletti. Quel giorno scrissero della grandezza e dell'umanità di Primo Moroni penne importanti su testate importanti. Quel giorno scrisse sulla stampa Gad Lerner: scopriremo di doverlo rimpiangere, questo indecifrabile stratega del conflitto e delle mediazioni nelle nostre metropoli, dove la rabbia dei giovani cresce sotto traccia con il diminuire del lavoro e l'evaporare della politica. Quel giorno scrisse sul Corriere della Sera Oreste Del Buono. Era uno che metteva il mondo della cultura di fronte alle delle responsabilità. Lo costringeva a prendere posizione, era un turbatore della quiete ingiusta che ha avuto il merito di avvicinare alla cultura tantissimi che la rifuggivano. Quel giorno scrissero sul Manifesto Ivan Della Mea: Primo sapeva darsi e dare questo tempo e noi che restiamo dovremmo imparare a trovarlo. Aldo Bonomi: produrre reti e relazione tra dentro e il fuori, tra il carcere e la società, è stato per Moroni una costante azione militante. Tutto questo lo ha fatto costruendo luoghi e spazi della comunicazione. Bruno Cartosio: in quella libreria accolse gli esuli dell'America Latina e i compagni di tutta Europa che arrivavano con il suo indirizzo in tasca. Accolse anche i disperati delle politiche degli anni 70 e 80. Li aiutò sempre tutti, fino all'esaurimento. A quel punto appese un cartello con scritto «Sono stanco». Quel giorno, il 23 gennaio del 2009, la stampa ha ripreso a parlare di Primo Moroni, di Calusca City Light, dell'archivio di Primo e del centro sociale COS 18. Quel giorno si racconta di uno sgombero di polizia, di uso della forza. Ma è possibile sgomberare 32 anni di storia? Ma è veramente possibile sgomberare le idee e quello che hanno raccontato e ricordato Gad, Oreste, Ivan, Aldo e Bruno? I centri sociali esistono in tutto il mondo, spesso sono un patrimonio della città, spesso sono un riferimento costruttivo per migliaia di giovani, e fare di tutte le erbe un fascio non è utile per nessuno e nemmeno troppo intelligente. Ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare Primo Moroni. Non pretendo che chi non lo ha incrociato possa o riesca a comprendere cosa si è perso, ma penso sia doveroso almeno uno sforzo per comprendere cosa ha rappresentato e rappresenta per il quartiere, per la città, assieme alla libreria, all'archivio e a COS 18. Fatto questo sforzo, ci si vergognerà di avere potuto anche solo pensare allo sgombero. Questa lettera è del 2009. Questa lettera è del 2009 e quindi vi fa capire quanto oggi per noi sia importante, eppur nella tragedia, un giorno di festa, perché ricordare Alessandro Cazzaniga in questa maniera per noi è un momento altissimo, che per lui sarebbe stato qualche cosa di grandioso, di impensabile, ecco. E siccome Alessandro è la persona che sta nel cuore di tutti noi, questa scelta è stata veramente per noi una cosa che forse neanche chi ci ha detto va bene, e quindi l'archivio Primo Moroni riesce a capire fino in fondo. Quindi se vogliamo fare partire il filmato, quello su Primo, e poi aggiungo, faremo vedere anche un altro filmato in cui si potrà capire ancora in maniera più concreta la vicinanza del sindacato a questo luogo e a tutto quello che questo luogo ha rappresentato. Andiamo, si va per partire, il vento già spacca, già gonfia le vele, l'ancora angoscia per mille più braccia, già leva dal fango. Eravamo andati in rotta di collisione con la struttura, con i nostri vertici, eccetera, per il nostro modo di fare, che era diverso da quelli classici. E allora abbiamo avuto un momento di grande discussione al nostro interno in cui ci chiedevamo: ma dobbiamo lasciare perdere tutto perché non si può andare avanti? E qualcuno teorizzava questo, oppure ci inventiamo qualche cosa per andare avanti? Perché ovviamente io ero tra quelli che dicevano bisogna andare avanti, però bisogna andare avanti non così, in questo modo, e quindi bisogna inventarsi qualcosa. Ci siamo inventati un'associazione culturale. Questo perché? Perché per chiudere un qualche cosa che rappresenta centinaia di lavoratori, come il sindacato, ci vuole un secondo, basta una lettera. Per ricostruirlo ci vuole una vita e non si sa se ci riesci. Quindi era un insegnamento che Moroni ci aveva dato, il tenere la posizione. Abbiate pazienza. Pazientate, arriveranno tempi migliori. Abbiamo costituito un'associazione che si chiama Alambrado, un'associazione che interveniva nel sociale. Siamo intervenuti per i disabili con un enorme successo, lo vedrete. Siamo intervenuti ricostruendo le biblioteche di carcere di San Vittore a costo zero. Siamo intervenuti su tutto quello che poteva essere momenti, no, di grande difficoltà per qualcuno, perché lo statuto di Alambrado, così poi mi taccio, lo statuto di Alambrado lo scrisse Primo Moroni, questo non lo sanno in tanti, lo scrisse proprio lui. Ci parlammo, ovviamente gli abbiamo chiesto di farci uno statuto che entrasse e ci desse la possibilità di proseguire sulla strada che era anche del sindacato. Guardate che l'associazione aveva come soci e sostenitori gli stessi lavoratori iscritti al sindacato. I nostri iscritti pagavano la doppia tessera per sostenerci, e hanno avuto ragione, perché noi siamo così potuti andare avanti, diventare oggi il primo sindacato nella Banca Nazionale del Lavoro, e non solo, ma abbiamo nel frattempo non buttato via nulla, perché abbiamo imparato tante cose, abbiamo conosciuto tante persone grandiose nel frattempo lungo quella strada, e le abbiamo restituite alla città, le abbiamo restituite alla città con atti e fatti. Quindi la luce. Se andiamo, si va per partire, il vento già spacca, già gonfia le vele, l'ancora angoscia per mille più braccia, già leva dal fango di mille miserie. Non posso risposi, le mille valigie di questa partenza mi legano al mondo, io so per partire le devo lasciare, però senza quelle per me non c'è volo. Mi disse il bagaglio di mille paure, per mille d'angosce, di vecchie certezze, per mille speranze di cane deluso che resta bastardo tra mille carezze. Mi disse: è questo che devi lasciare sul molo del tempo per una speranza. Raccogli il tuo sporco e tienilo stretto, che altro non serve per fare allegria. Ma quanto dolore per dare allo suono di te fantasia un attimo solo. È piena la nave dei cani delusi, rimasti bastardi tra mille carezze. È bello vederli coi pugni ben chiusi, tenersi lo sporco, lasciar le promesse dei mondi civili, dei mille ritratti, quadrati perfetti del senso comune, cornici di forme a specchio pulite, così che la rabbia si umilia nell'arte. Ma quanto dolore per dare allo sporo di te fantasia un attimo solo. E guardo la vela di foglio di carta, mi volto e lontano sul molo già vedo con l'occhio civile l'esperto dell'arte cercare l'orgasmo sui mille bagagli. Lo guardo felice e lancio la pietra, si ferma nel cielo più grigio di lastra, nel cielo si appie... Sì. Joseph che mi ha portato in questo posto, che è l'archivio di Primo Morone, cioè la sua biblioteca, che è una cosa incredibile. Perché quella tela è stata restaurata dal laboratorio di restauro. Un titolo a caso. Quindi quella è tela? Sì. Comunismo. Sì. Abbiamo fatto una serata. La rivoluzione spagnola. Lucas. Cultura e potere. Segre, Vittorio Zispo. Cioè, libri che parlano di tutto, anche di lui. E questo ci fa entrare in un mondo, vedo Antonio Gramsci, vedo un mondo che sembra che stia scomparendo, però si fanno anche... Io credo che la tradizione non risolta, che non abbiamo mai risolto, è quella tra una necessità di difendersi da un'organizzazione della vita quotidiana che non restituisce né il desiderio né felicità, magari potrebbe restituire il benessere economico relativo, un moltino, quindi di un benessere minore, quello italiano che è diffuso in mani insensate come rapporti quotidiani, allora in 24 ore, sabato sera, domenica sera devi consumare tutto questo bisogno di vissuto, e sarà con un'estasi, sarà con la pelle, con la house, con la prima, con la progressiva e poi con le macchine potenti per andare, perché sennò la vita non ha senso, semplicemente perché avrai la BMW, lo stesso modello del padre Lucino. Ora, la tradizione è la che tu devi organizzarti per difenderti da una organizzazione della vita quotidiana che non tolleri. E qualcosa sei, in un certo senso, al di fuori dal sé, e appunto per questo hai il sé. Allora, aveva un significato... era di Sartre, questo non essere nulla, Sartre è stato un grande maestro, un grande maestro di riferimento. Una pezza giustificativa, li puliamo e poi ci andiamo di là. Domani. Dal basso che non parlasse solo della crisi delle grandi famiglie borghesi, non parlasse ad esempio di classi subalterne, dentro questo percorso è nata alla sua radice in teoria che noi chiamiamo indipendente antagonista del presente, dentro i percorsi reali in cui si tenta di dare significato e intelligenza ai bisogni collettivi fuori dal governo complessivo della società che comunque esiste, dalle classi dominanti, democratico e reazionario che sia. Invitiamo oggi l'associazione culturale Alambrato e cortine di suono. Abbiamo mangiato prima, sono, insomma, abbiamo leggermente ecceduto nel bere. Allora, anche lui, da sempre, però lui è un classico. Abbiamo le, cioè, noi siamo andati ospiti a Castelnuovo ad una festa e abbiamo fatto abbastanza rumore in quella festa, ospiti della festa, dell'associazione Alambrato e dell'associazione Cortine di Suono. Abbiamo invitato le Mondine di Valle Lomellina, abbiamo fatto una serie di casini sul manifesto, hanno scritto della Valle Lomellina, che non è una valle, nel senso che è tutta piatta, nota Valle Lomellina, e poi abbiamo scritto via dalla pazza follia, che non ha senso, nel senso che via dalla pazza folla, abbiamo fatto un po' di... Pabino con sangria. Ora noi, io anche qua... Ho qua i nomi, adesso le Mondine sono un pezzo di storia del proletariato italiano e internazionale. Gusta! Non starò a dilungarmi sulla storia delle Mondine, ma sono state veramente, insomma, le canzoni che abbiamo cantato tutti quanti, perlomeno noi da giovani, non gli altri, ma noi, cioè io che ho tanti anni come... Menù. Ci sono anche delle parole di Mondina nel volantino, la mia gente era tutta gente battagliera che non aveva pure dei padroni, i padroni lavoravano anche loro ma avevano una bella azienda, una bella stalla, era gente che stava bene e in sala aveva il manganello, quando andavamo il sabato o la domenica a prendere i soldi della settimana vedevamo là appeso il manganello, ma non avevamo paura. Sono questi signori davanti al centro sociale Conchetta Milano? Bancari, sì, bancari della BNL. Hanno lasciato a casa la giacca e la cravatta e vogliono che la gente ora metta da parte i pregiudizi sulla loro categoria. Non sono dei privilegiati, il loro trattamento economico non fa girare la testa. Queste sono le loro buste paga. Non è d'accordo con questo dato la Federazione Sindacale Italiana Bancari, che invece ha indetto una conferenza stampa per il rilancio delle assunzioni di giovani disoccupati. Secondo loro, infatti, i dati dell'esubero sono strumentali. Un dato conclusivo: nel 1996 i lavoratori del credito hanno effettuato circa 20 milioni di ore di straordinario, pari all'assunzione di 12.000 giovani, e dalla Calusca, Chiara Baldassari, 6 Milano. Senz'altro era una categoria privilegiata, ci mancherebbe altro, e questo non riconoscerlo sarebbe un assurdo. Oggi senz'altro si sta sgretolando, non a caso i posti di lavoro, gli esuberi, che tra l'altro a noi non risultano, vengono strombattati in continuazione dai vari Tancredi Bianchi, se non dal nostro presidente Sarcinelli, e quindi crediamo che la situazione sia ben diversa da quella che si presentava magari 20 anni fa o 30 anni fa. La Banca Nazionale del Lavoro mette seriamente a rischio la salute di chi lavora per risparmiare 4 soldi e si rifiuta. I rappresentanti sindacali di Milano e di Sesto San Giovanni, più un rappresentante della segreteria centrale dell'organo di coordinamento, hanno manifestato davanti alla sede centrale della Banca Nazionale del Lavoro di Milano, Piazza San Fedele, per i diritti e la tutela della salute dei lavoratori che svolgono attività ai videoterminali. All'interno della BNL già da oltre un anno che che ci battiamo specificamente per i videoterminali. Sono videoterminali ormai consumati, che andrebbero sostituiti, perché non basta cambiare o con altri terminali un po' meglio. Insomma, qui siamo sottoposti per tutta la giornata lavorativa continuamente a doverli usare, con la vista che ne risente, vuoi anche per la posizione delle luci e vuoi proprio per questi fosfori consumati. Banco di Napoli non convince i lavoratori della BNL aderenti al sindacato autonomo. Negli ultimi anni sono uscite almeno 3.000 persone dalla Banca Nazionale del Lavoro e altre 3.000 usciranno probabilmente in seguito alla fusione che dovrebbe avvenire entro il 1998. Così ecco i bancari che scioperano in via Marino contro gli esuberi, ma non solo, ce l'hanno anche contro la globalizzazione dell'economia e contro il lavoro in appalto. Ecco, voi siete qua a protestare anche contro il lavoro in appalto. Cosa, c'entra qualcosa con questa fusione? È tutto collegato, il lavoro in appalto è essenziale per il padronato. Uno, per fare un risparmio a breve termine, dando via il lavoro contrattualizzato a service dove sfruttano i lavoratori, ho un risparmio immediato. Due, creo l'esubero in presupposto strumentale per poter poi licenziare e dire che, non so, 100 lavoratori ormai non fanno lavorazioni sufficienti per mantenere questo numero, quindi posso licenziarli. Quindi è una, e intanto blocco le assunzioni, quindi non assumo più giovani. Il taglio del costo del lavoro significherà intanto una precarizzazione di tutto il sistema, una penalizzazione forte per i giovani, quelli che entreranno nel mondo del credito con l'espulsione dei vecchi, perché poi l'obiettivo è quello, mandare via i vecchi che hanno comunque conquistato dei diritti per portare all'interno del mondo del lavoro giovani schiavizzati, senza diritti, e quindi questo è ancora più grave. Va. Si parla di emergenza criminalità, rapine sempre più frequenti a Milano e provincia, che hanno spinto anche i dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro a scioperare per un giorno. I sindacati chiedono maggiore sicurezza. Il servizio è di Mila Cataldo. Rapine, mordi e fuggi portate a segno con taglierini e coltelli. Lo sciopero di un giorno intero delle 45 filiali della Banca Nazionale del Lavoro tra Milano e provincia ha lo scopo di ottenere maggiore sicurezza. Telecamere e metal detector non bastano. Rilevano armi, cellulari, chiavi, ma non individuano le lame. Unico deterrente le guardie giurate, la cui presenza nelle agenzie è in grado di scongiurare gli assalti degli svaligiatori armati di coltellini. Laddove c'è la videosorveglianza, i rapinatori entrano dentro come al supermercato, fanno la spesa praticamente, entrano dentro, prendono soldi invece che salami. In BNL le rapine sono avvenute solo ed esclusivamente laddove non c'è la guardia giurata. A rischiare di più sono soprattutto i clienti. I clienti senz'altro sono quelli che poi tra l'altro vengono ultimamente presi in ostaggio per garantirsi l'uscita dopo la rapina. I sindacati della BNL chiedono maggiori investimenti nelle misure di sicurezza vista la crescita vertiginosa delle rapine a Milano. Ammontano già a luglio a 13, contro, diciamo, quelle dell'anno precedente che erano 6 in tutto l'anno. C'è anche chi, come questo impiegato di banca, è stato vittima di ben 4 assalti di rapinatori, per fortuna finiti tutti senza gravi conseguenze. Ritrovarsi 4 rapinatori che scavalcano improvvisamente il bancone, per cui te le vedi addosso, sono momenti che speri che durino il meno possibile, ecco, quindi... Erano armati. La più grave è che all'interno di questo portafoglio titoli la fanno da padrone due gestori del fondo stesso. Quindi c'è un conflitto di interesse dichiarato sì nel bilancio, come stabilisce la legge, ma che praticamente rappresenta un conflitto enorme, perché le perdite poi che ci sono state nel fondo sono state determinate per la maggior parte dalle perdite ottenute con l'acquisto dei titoli del gestore, dei due gestori stessi. Questi gli ultimi due bilanci del fondo pensione BNL. A pagina 100 del bilancio 2008 leggiamo che la perdita è di 53 milioni di euro. Quello che perde di brutto sono ovviamente le azioni e questi OIC, ovvero quote di altri fondi che a loro volta contengono altri titoli. Che il versamento medio dei lavoratori ai fondi è di 2.000 euro l'anno. Quanto mi rendono in pensione fra 30 o 40 anni? Fare delle previsioni a così lunga scadenza è difficile, ma chi ha provato a fare due conti sostiene che renderanno una pensione integrativa di 100-120 euro al mese. Per avere una pensione integrativa di almeno 300 euro bisognerebbe versare al fondo 450 euro al mese. Può permetterselo quell'universo di precari che porta a casa uno stipendio mensile di 900 euro, oppure quella massa di lavoratori con lo stipendio medio da 1.300 euro? Forse no. Joseph, hai un naso stupendo, il padrone. Lo sono appena rifatto. Aspetta, dai che c'è una, mi metto a chiare. Da dromedario, incontrando un cammello, gli disse ti compiando, carissimo fratello, saresti un dromedario, ma magnifico anche tu, se solo non avessi quella brutta coppa in più. Precario fa rima con efficienza, si sposa con ottimizzazione e sinonimo di risparmio. E chi di noi non pensa al risparmio? Precario è il produttore di valore a cui non viene concesso nemmeno il diritto di dover essere consumatore. Se non riesce a fare il suo mestiere o se non piace come lo fa, lo si cambia. Per il resto, che consumi o resti digiuno, a noi non importa. È una storia in solitario, senza speranza, ordinario. È un blues, precario, precario solitario, Giovanni, è l'ultimo giorno. Le ore passano, non finiscono mai. Una parola, quella parola non è mai arrivata. Neanche un ci dispiace, puoi stare in sosta, non dico una fermata. Giovanna, salute veloce a fine giornata. Giovanna, Giovanna, questa non è la tua casa. Giovanna, domani sarà ancora una volta tabula rasa. Giovanna, Giovanna, speranza ordinaria, è un gozo, un gozo precario, precario solitario, è una storia solitaria, senza speranza ordinaria, è un blues precario, precario solitario. Sei giovane vedrai, sei giovane vedrai, sei giovane vedrai, certo come prima non sarà mai, sei giovane vedrai, sei giovane vedrai, sei giovane vedrai, certo come prima non sarà mai. Pensa però a chi senza lavoro a 50 anni, pensa al Juan e l'avvenire è un buco nero in fondo al tra. Precario solitario! Io stamane là sul lavoro con il sorriso del capo sezione, mi è arrivata la liquidazione, ma licenziato senza pietà. E la ragione perché ho scioperato per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro, della libertà. Mattina, appena alzati, il fondo in cassa dobbiamo lavorare, e tra i derivati e i dirigenti, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tra i derivati e i dirigenti, un duro lavoro ci tocca fare. far, ma verrà un giorno che tutti quanti, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ma verrà un giorno che tutti quanti in un'altra banca si lavorerà. Allora ci sono quelli che diciamo vengono sfrattati, chiedono il blocco degli sfratti perché non ci sono i soldi per arrivare a fine mese, ci sono quelli, sono venuti a trovarci tra l'altro stasera, quelli che si mettono la tuta blu ma in realtà sono dei bancari, io non sapevo che ci fossero i bancari in tuta blu, cioè che si considerano in tuta blu, ce n'è uno che è venuto a trovarci che si chiama Piero Carcano. Bancario, è venuto con altri bancari, lei è un bancario della BNL, di un'agenzia di Milano, della Banca Nazionale del Lavoro, ma sono ovviamente tante altre banche, lei ha fatto una clamorosa manifestazione, è andata su internet, diciamo un video virale in cui mettete a cantare Bella Ciao, un bancario che canta Bella Ciao per me è quasi un controsenso, non avrei mai immaginato, perché? Allora, intanto abbiamo massimo rispetto per le tute blu e per chi fa quelle lotte, Landini in primis, con il quale abbiamo anche solidarizzato più volte. Noi facciamo le nostre lotte, non vogliamo paragoni perché comunque non ce ne sono. Vogliamo però rivendicare una posizione, quella di un bancario e non quella del banchiere, un bancario che in questi anni è stato vicino, molte volte da solo, abbandonato a volte, specialmente in piccole banche, poi in diverse situazioni, vicino agli stessi clienti, agli stessi consumatori, diciamo così, anche se la parola è brutta, perché ultimamente però questo è. Oggi manifestiamo di fronte alla sede di BNL. È la prima di una serie di attività del 2019 messe in campo per far capire alla proprietà che è il caso di chiarire i suoi progetti futuri ai propri veri stakeholders, i lavoratori. Basta l'approssimazione nell'attuazione di riorganizzazioni che staccano la banca dal tessuto sociale e allontanano i colleghi dai clienti. Basta all'arroganza di un management sempre meno interessato alla sopravvivenza degli istituti di credito e sempre più orientato a guadagni di breve periodo. Servizio di Adalberto Januario. Cessioni di lavorazioni, esternalizzazioni del lavoro, cessioni di lavoratori, chiusure di filiali, esuberi, questo è quello che ci aspettiamo. Da un piano industriale all'altro la ricetta è sempre la stessa, sacrifici per i lavoratori, fallimenti per i manager da un punto di vista dei risultati che poi si conseguono e noi non siamo più disponibili ad andare avanti così. Questa sarà una occasione in cui il sindacato tutto, sostenuto dai lavoratori, deve dimostrare che si può invertire la rotta. Tommaso Vigliotti, ci troviamo qui oggi a uno sciopero dei dipendenti della BNL e ci colpisce in maniera particolare il contesto, perché avete deciso di manifestare a pochi metri dalla sede dell'ambasciata francese. Perché la scelta di questo luogo? Allora, la scelta è simbolica e ha un significato profondo. BNP, colosso francese del credito, multinazionale di dimensioni mondiali, è da anni azionista unico di BNL. Purtroppo però da un piano industriale all'altro il management della BNL chiede semplicemente solo sacrifici ai lavoratori, tagli di costi, tagli di tutti i trattamenti economici e normativi, tagli di personale, esuberi, con la promessa di risultati che dovrebbero rilanciare l'azienda. Purtroppo i sacrifici restano, i risultati non arrivano e restano anche gli stessi manager. E noi di questo chiediamo conto anche all'azionista, perché evidentemente probabilmente ha smesso di investire in questa banca. È l'importanza all'uomo che voi date, se poi agite senza pietà, lottiamo per l'unità dei lavori e gli uomini che li fanno, ma noi non ci arrendiamo, fermate i vostri piani. La proprietà della banca è francese, pertanto le organizzazioni sindacali vogliono dare un segnale anche rispetto al fatto che non si viene in un paese per colonizzare le sue imprese, per sfruttare le sue imprese, per poi magari cederne dei pezzi. Le organizzazioni sindacali sono in protesta perché ci sono quasi 1000 posti di lavoro a rischio e il mondo del lavoro si sta trasformando e non possiamo non aprire momenti di riflessione, e quindi ben vengano manifestazioni come questa. C'è molta tensione, c'è molta amarezza, c'è delusione verso una banca che oramai anche delle professionalità, oltre che dei valori umani, no, che sembrano quasi dimenticati e superati, non sa più cosa farsene. C'è anche però molta determinazione ad andare avanti in un'azione di lotta. Adesso ci girano, questa è la mia, secondo me questa è quella la cosa. Ci giriamo da questa parte, ma noi non possiamo cedere a questo ricatto. Vai la musica! Aspetta, poi ti diamo il fiato, poi facciamo il finale. Sulle mani, dai, applaudiamo, perché qua è il nostro piangere per valer l'erba, valer ricco e cambiare. E diventa un ricco, sono già ricco se non piangiamo. Sempre più utili, ma vi basta. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, dirigenti, adesso basta. Siete voi così, siete una casta. Ah, sai, tu e poi io ti no, solo per dire che consegniamo questo. Sì. No? Allora, il fondo quindi prenderà vita, adesso poi la parola a Roberto per l'archivio, già con una consegna di libri del nostro sindacato, editati del nostro, negli anni del nostro sindacato, con una memoria di archiviazione multimediale, diciamo, no? Dove dentro c'è di tutto, da filmati a documenti a fotografie e via dicendo, con la spiegazione di tutto questo, e in più noi vogliamo sostenere l'archivio Primo Moroni come sindacato con una quota che consegniamo qui all'archivio. E e poi voglio solo dire, insomma, che Alessandro continua a essere in mezzo a noi, continua a vivere con noi, e quando usciremo di qua non sarà cambiato niente, continuerà. Io dico due parole velocissime. Beh, innanzitutto un grazie a tutti voi per essere venuti qui questa sera, per avere condiviso lo spazio che noi oramai da tanti e tanti anni, perché qui l'occupazione iniziò nel 76, nell'estate del 76, cerchiamo di portare avanti nello spirito che fu di Primo e dei primi occupanti, cioè avere un posto aperto alle iniziative di tutti i tipi, culturali, artistiche, di dibattito, di iniziativa, di documentazione, come quella parte di attività che riguarda più direttamente l'archivio e la libreria, in uno spirito fondato su un principio, quello dell'autogestione, quindi la condivisione delle scelte fra tutti, sia interni che esterni. Le proposte qui che vengono messe in calendario derivano da una dinamica interna, ma anche dall'accoglimento di proposte di gente che non è del centro, che però vuol fare qui qualche cosa, quindi se ne discute insieme e se si trova un accordo lo si fa. E quindi autogestione, autonomia da ogni dinamica di potere, e il tentativo di rendere concreta la solidarietà e l'unità di fronte ai problemi della vita e soprattutto nella lotta. Io ricordo proprio l'inizio della vicenda di Alambrado, perché Primo mi chiese di fare un incontro con voi. Mi pare perché in quel periodo io insegnavo all'interno di San Vittore, quindi c'era la questione della donazione dei libri alla biblioteca. Mi pare che fosse questo il motivo. Fatto sta che poi da quell'incontro è derivato tutto il seguito, quindi la partecipazione ai vari festival dell'editoria e poi via via fino ad arrivare a quel piccolo contributo, quel piccolo aiuto che è stato dato nelle occasioni di lotta, di prestigio, di mobilitazione, quindi l'intervento di Tommaso che è stato visto, oppure tutti i ganci necessari per organizzare l'ultima iniziativa, quindi il giocoliere, eccetera. Sempre nella stessa disposizione, cioè compagni tra i compagni, amici di chi lavora, soffre, ha problemi, e cercando di, a partire proprio dalla condivisione, realizzare qualcosa di utile. Le ultime due parole sono sull'archivio. L'archivio conserva innanzitutto i materiali raccolti da Primo Moroni, che fu il fondatore e l'animatore insieme ad altri della libreria Calusca. Anche la libreria Calusca esiste da tanti anni, iniziò le sue attività nell'inverno 71. Ecco, Primo nel mentre portava avanti questa attività, prima era soprannominato il libraio di movimento, mentre portava avanti questa attività conservava le cose che gli parevano più importanti, quelle che meritavano di restare, quindi tutta la rivisteria di movimento, i libri, tutte le cose legate alle espressioni della cultura di base, della controcultura e soprattutto dell'attivismo e delle lotte. E quando Primo morì nel 98 si riunirono i compagni, gli amici che l'avevano accompagnato in questa attività e quindi si decise di fondare l'archivio a lui intitolato, l'archivio Primo Moroni. Al fondo iniziale, che costituisce il corpo centrale di questa raccolta documentaria, si sono aggiunti via via altri fondi di compagni, amici, ahimè in genere scomparsi, che però attraverso i libri e le loro riviste, i loro materiali di lavoro e le informazioni che sono contenute nello spazio dell'archivio a loro dedicate continuano a stare con noi. Sono molto d'accordo con quello che ha detto, per cui oltre alle carte, tutte le informazioni, le foto, i ricordi che riguardano questo compagno, questo vostro amico, questa attività, potranno essere caricati sul sito e lì essere visibili a chiunque. Poi sono i casi della vita e gli incontri che faranno sì che queste carte continuino a esistere, perché qui c'è un grosso passaggio di ricercatori, studenti o meri interessati che usano questi materiali. Dopo un lavoro di un certo numero di anni si è capito che questo sforzo, anch'esso completamente autogestito, e quindi ringraziamo sentitamente per i soldi raccolti questa sera, ha un senso che non è solo di custodia della nostra memoria, ha un senso per tanti altri che magari non conosciamo e che però sono interessati a quel tipo di materiale. Solo questo, per cui un grazie, spero che ci rivediamo presto, il posto è sempre aperto nonostante tutte le difficoltà di questo periodo e cerchiamo di andare avanti. Sociale che per molti di voi era quasi tabù, o comunque sembrava un posto molto demoniaco, non vi serve arrivare, qualcuno che in settimana è arrivato qui dicendo ma è qui che si fa, ma ci sono i punk qua, non sapendo neanche cosa fosse il punk, poi ha detto ma c'è il sindacato Unisino, allora non si sapeva chi erano più punk, quelli del Unisino o i punk. Noi abbiamo preparato, adesso intanto ci preparo nelle ultime cose, una serie di canzoni che sono dedicate a lui e parlano direttamente del lavoro in banca, ma soprattutto di alcuni personaggi della banca che anche voi conoscete. Non farò nomi e cognomi, Alberto, se a posto non la facciamo la canzone su di te, quindi se già non sapevamo che venivi. Ma qui abbiamo canzoni che sono state realizzate in agenzia, quindi questa è una cosa unica. Questo per dire che siamo sempre stati un po' diversi dai soliti bancari. Del resto, se vogliamo mettere un sottotitolo al fondo Alessandro Cazzaniga, Alessandro Cazzaniga un altro bancario impossibile. E voi che siete qui siete della generazione, siete bancari abbastanza diversi. Allora, mentre loro io sto prendendo un po' il cinema per questo. E poi andremo di filato, sarà uno spettacolo particolare perché di solito queste canzoni le facevamo anche in banca, anche al Teleto, anche in altre situazioni, ma fatte con organici ridotti. Stasera abbiamo riunito molti di colleghi, anche pensionati, perché per esempio facciamo un applauso a Paolo Zagari, la liquidazione delle vestite in Italia, quindi ne prende 7-8, all'insaputa della moglie, questo è fatto comunque positivo, per cui lui ha una casa sotto che abbiamo come diciamo, e poi ci sarà spazio per lui. Poi abbiamo altri interventi nella giornata, tra l'altro poi lo vedremo. Insomma, adesso come siamo un minuto, naturalmente. durerà fino alle 3 di domani mattina. Scendetevi il cuore in pace, i bambini possono dormire, là c'è lo spazio. Se non avete visto ancora la libreria, poi potete vedere la libreria Calusca, che è importantissima per i documenti lasciati. Noi abbiamo lasciato, come ha detto Josef, una serie di nostri documenti, di nostri filmati, di nostro materiale che verrà poi studiato anche dai ragazzi per farne anche delle tesi di laurea, come qui succede ed è successo. Come siete messi? Dove sei? No, qua. Fa piacere un bel mazzo di rose, anche il rumore che fa ce lo fa, ma una birra fa come al più, in questo giorno appiccicoso di caucio. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Buscate a tempo, se no, tra una moto e un'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Quanta strada nei miei sandalini, quanta ne avrà fatta Bartalini. Quel naso triste come una salita, sulla voce quel naso allegro da italiano in gita. E i francesi che si incazzano, che le palle a colli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, ci tu, Yatazaz, Yatazaz. Yatazara, yatazara. Sono scontrose, o forse hanno voglia di farla pipì. e tramonta questo giorno in arancione, e singolti a ti ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo strandone, in fondo alla cosa se tu vuoi andare vai, e vai che io sto qui che aspetto altri, scalpitando sui miei sandali. Ma quella curva spunterà, quel naso triste da italiano allegro tra i francesi che si incazzano e i giornali che scolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo, allora si riceve Yattarazzazzi, Yattarazzazzi, Yattarazzara, Yattarazzazzi, Yattarazzazzi, Yattarazzazzi, Yattarazzara, Yattarazzazzi. Attilio, Attilio, guarda che è finita, Attilio, Attilio è finita, Attilio, Attilio è finita, Attilio! Attilio! Attilio Cazzanini, Attilio! Grazie! Attilio! Grazie Attilio! La canzone è scritta per te, ce l'abbiamo fatta, ma poi ritorneremo anche dopo. Attilio! Attilio! Ha iniziato questo nostro concerto che è dedicato un po' alle canzoni che piacevano ad Alessandro. Piacciono ovviamente anche a noi. Una di queste è un cantautore, penso, preferito anche tra molti in questa sala. Ma il senso di questa canzone proprio dedicava anche agli indiani. Indiani d'America, che è un po' la storia degli indiani. Un po' ti senti, Tommaso, un po' indiano. Qua siamo un po' indiani. Indiani metropolitani, indiani all'interno, c'è tutto. La serie, questa è una delle canzoni più belle, tra l'altro, di un nostro amico che è Massimo Bubola, assieme a Fabrizio De André. Sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, per primarlo senza paura. Chiederà di mangiarmi pochi giorni nel giappaguare, chiederà di mangiarmi se di luna temporale. C'è un dollaro all'argento sul fondo del sentiero. Thank you.

se l'impianto funzionerà, possiamo anche cantare con le canzoni di Ossipo Campo. Allora, ci siamo? Vabbè, abbiamo il microfono? Prova, no, va, non va come prima, quindi siamo. Non va, vai, non va. Prova. Allora va bene, allora lui vuole che la leggo io, allora recuperiamo la concentrazione. Canzone per Alex di Cavallari Roberto. Come una corriera su strade d'Appennino, di tornanti ritornano i ricordi, schegge di selce, ruvi di diamanti. Lenti ma sicuri, risalgono nell'anima, nel cuore, nella mente. Si fanno breccia come Biacco da Ticino, nobile serpente. Nei mattini di Milano pedalavi senza fretta, che ti incrociavo spesso in motoretta. Quella city ormai cambiata, con ritmo perso, oltre il veloce di asfalto sudato e appiccicoso di traffico feroce. Rito di un rendezvous, diverso, senza appuntamento, sentirmi falso nuove, che incrocia un falso lento. Un cenno di saluto, un braccio alzato. Sorridevo del tuo ritmo, da treno accelerato. Nella nebbia che entra nelle ossa, gocce sulla fronte, bicchieri di acqua ed arance, vero e ben, maestro Conti. Poi un giorno non ti ho più visto pedalare lungo il viale. Ho pensato, sarà con Vitaletti o con Variale? No, era l'ultima partita, assurda, senza senso. O episodi da moviola, meglio sarebbe stata quella dell'anno prima con Beppe Viola. Come lui sei qui, e io aspetto lungo il viale che ripassi, tanto c'è da rivedere. Ah, dimenticavo, saluta Carlo Sassi. Allora, questa canzone l'abbiamo scritta invece, direttamente dedicata a voi, a tanti come voi che sono dei veri tarabusi. Adesso vi spiego cosa sono e guardandovi in faccia vi vedo già faccia da tarabuso. Il tarabuso è un uccello della Valle del Ticino, che solo io e lui potevamo un po' conoscere, no? Perché è un uccello che si finge estraneo al mondo, si trova in mezzo a una natura completamente deserta, allunga il becco fino al cielo, sopra su, fa finta di non vedere gli altri, crede di non essere visto, ma è la più grande preda favorita di boiane e di falchi. Trastandola nel nostro mondo di bancari, di persone, parlerei anche di bancari dell'anima e bancari dentro, cioè quelli che comunque cercano di evitare, e anche a voi sarà capitato, l'operazione più difficile, perché, ah no, io non lo so, l'altro giorno ho trovato uno che mi ha detto, io saprei farla, ma se dico che so farla, poi me la fanno fare. Che se vuoi uno simbolo, ma però l'ha fatto così. Oppure ti dicono, e sai, quella lì è un'operazione un po'. Sì? No. E non va però questa. Va o non va? Insomma, quando un microfono va me lo tolgono. È forte, è forte. Allora alzami un po' la voce. Benissimo. Allora, mi dicevano, io questa qui non la faccio. Fallo te questa operazione di titoli. Dai, falla te che qualcuno come Robby, te lo ricordi quello che diceva fino a 10.000 il fido lo firmava il direttore, oltre 10 lo firmava il responsabile territoriale. Era di 10.000 e 100 euro, e adesso, ma non può fare di 10.000 così firma lui? Ma non è perché firma lui, no? Lo sappiamo chi è per dove. Allora, questa canzone è dedicata a questi tarabusi, quelli che vivono una vita alla finestra, ma quello che importa agli altri, a loro non gliene frega, e basta. scontrare in quantità. Non solo tra i volati, ma anche tra i primati, sono molti questi sbocchi, anche tra i non più umani, gli sbocchi da lontano. E pensano sempre di non venire riconosciuti, eppure stanno da soli, in mezzo alla natura, il mondo che li guarda e non ha neanche paura. Adesso è a posto, non è molto particolare. nella nostra comunicazione aziendale hanno mandato un giornale, si chiamava BNL Noi Insieme o c'era qualcosa, e su una foto in una pagina patinata, se la smetti, però io sono concentrato, dopo la serata è così, lasciami, c'era questa foto qua, sembra una foto sinalettica, e sotto la foto è ancora peggio, perché ci sono i pezzi che chiedevano che ognuno di noi si autodichiarasse per dire quello che era, per quello che era, come il lavoratore diceva, nome e cognome, età 48 anni, sede Milano, il suo lavoro in tre verbi, impegnarsi, decidere, comunicare. Quindi uno già... La cosa più stimolante del suo lavoro era l'aggiornamento costante della competenza per una migliore qualificazione professionale e manageriale nel contesto di quella che chiede l'azienda sia il futuro per la nostra azienda. La più frustrante è la necessità di ricorrere a continui solleciti e talvolta il fatto di ricevere, soprattutto delle prese per il culo dei miei colleghi. Ed è la verità. Perché lui l'abbiamo immaginato, quando c'è stato un periodo della storia della nostra banca che sono arrivate, non è uno dei, non l'unico, che la guardia di finanza è venuta, non è la prima volta, ma neanche la seconda, ma neanche la terza. Abbiamo avuto, noi dobbiamo dire che grazie alle nostre facce, anche un po' di merda, va dire, va detto, abbiamo salvato la faccia aziendale che non sempre era pulita, per tanti versi, poi non c'era niente. Questa qui, allora l'hanno chiamato per andare a Pratica di Mare a prendere una serie di documenti, e lui quella notte lì ci è andato, mettendosi un colbacco, perché lui aveva il colbacco, sembrava un colbacco di Michele Strogoff, poi c'è un freddo della Madonna, si è messo la pancera, perché la sua mamma, che era nostra cliente, veniva, Maurizio si è dovuta mettere la pancera, sono venuti a chiamarlo al campanello, gli hanno detto di andare in Pratica di Mare, ci sono dei documenti importanti che devi portare alla polizia. E lui, quando ha sentito polizia, gli sono andati giù le braghe, buttarle tutto, perché insomma, noi abbiamo pensato che Maurizio, si chiamava Maurizio, ma per via del suo essere un po' gattone mamone, l'abbiamo chiamato Maurizio, potesse avere una storia. Tu sei bastardo perché è lui che l'ha scritta, però. Soprattutto lui, perché lui pensava male dei colleghi, un po' anch'io, però. Vai. Vai. Dovreste farvi insieme a noi, miau come i gatti, allora via, mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia. Signori, sono Maurizio, è legale tutto fare, è tutto sulle mie spalle, dagli Appennini a mare, mi chiamano Omega, invece sono Maurizio, coi mutantoni di lana, mi proteggo l'orizio. Allora, una vita fra le carte, ogni giorno un sacrificio, sono il capo del legale, io mi dico Maurizio, lo so, non l'ho mai vista, neppure appena si è girato, mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia. Con le donne natura, allora ne ho invitata una, ho cambiato le mutande, le ho pagato col ticket la cena al ristorante, ma lei non ha apprezzato, mi ha spaccato in testa un fritto, mi ha detto ma come, ma come, ma paghi con il tizio, e non sono neanche aumentati i tizi con 7 euro dove cazzo mi un culo tanto, alla sera sono stracco, mi tocca andare a Roma di notte al freddo col colbacco, se scatta l'ingiunzione è ovvio devo andare, i fascicoli che scotta sono la pratica di mare, mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia insieme per Mau Mau. Quando arrivo a casa la sera, emozione, la testa della mamma come quella di un leone, dopo aver mangiato pane a causa e il panettone, infilo la pancera e mi fido del lettore. Mia, mia, mia. Nel codice civile sono un gran conoscitore di palazzo di giustizia, padrone mattatore. Io sogno una toga con scritto sul Maurizio, con quelle passerà prima o poi la troverò allo spizio. C'era un periodo che il suo a Deruta, chi è che lavorava in Deruta? Sulla mano in Deruta, chi lavorava in Deruta? La vecchia Deruta. In Deruta, secondo la vulgata comune, ci lavoravano le babione. Le babione erano quelle che facevano l'ultima parte del mutuo. Noi capitava di andare là una volta, erano abbastanza delle figure quasi mitologiche. Poteva un Ulisse arrivare là e chiedere che quell'ultima pratica fosse portata da... c'era un bordino in fondo alla scrivania, bastava prenderla così, neanche un metro di distanza, ma loro ti dicevano fallo tu, non ci arrivo. Capisci che era difficile arrivare con i tempi giusti. Allora è capitato una volta in banca questo Vallesio Carlo. Vallesio Carlo era un ragazzone molto grosso, molto grasso, che faceva l'elettricista per il Carrefour. E allora lui è venuto, vorrei fare un mutuo, ma non ci abbiamo creduto subito lì per lì. Poi però quando è venuto con due cuccioni di vino ha detto vogliamo fare un mutuo e lui ci ha creduto. Allora quando poi è andato avanti questo mutuo l'ha fatto. Però era un ingenuone, alla fine è arrivato il giorno della stipula e lui purtroppo non aveva un assegno circolare ma ha portato un altro segno, un pegno che era bancario. E il mutuo non si può farlo. Lui intanto ha detto ma senti questo qui è venuto che aveva i pantaloni corti, tutto sudato. Ha detto no, ma vivo con la senti. E allora devo andare a casa. È andato a casa, abitava lì lì, provincia di Torino, e la mattina dopo è tornato con quello. Ci è sembrato giusto dedicargli una canzone, perché uno così merita. La cosa bella è che a distanza di anni lui si è sposato in una grossa cascina e ha chiesto a noi di partecipare al suo sposalizio, perché nessuno al mondo aveva scritto una ballata su un mutuo. Vai. Vi voglio raccontare di quando sono stato abituato a salonato un mutuo da erogare in tutta fretta. Ci sono andato infatti in motoretta. Vivo anche le palle un po' sudate. Arriva puntuale Vallesio Carlo, ma gli assegni sono bancari e non si può farlo. Lo giuro, son sicuro. Vai. A casa togliamo i guanti e anche la tuta, i fascicoli sono già tutti in via Deruta. La via Deruta che è assai lontana, ci fanno le babione in metropolitana. La via Deruta che è un gran recinto, la bestia più feroce del Machu Picchu. Ci piace ancora adesso qui raccontarlo, il buco spensierato di Valleggio Carlo. Salutiamo Roberto Cavallari, grande autore di canzoni e anche grande direttore, riuscire a fare poi uno e l'altro non è sempre facile, qualche volta si arrivava a firmare il mutuo e c'era il testo della canzone, erano un po' cazzi, perché allora abbiamo lasciato il mutuo là dove abbiamo messo la canzone. Allora, questa qui invece è un canto di Risaia e qui lo dedico al Conchetta tutto, perché quelle foto che avete visto e quel filmato delle mondine qua rimangono un culto. Siamo venuti col coro delle mondine di Mare Lomellina a cantare qua in Calusca e da quel momento noi non ci siamo più lasciati con loro, perché abbiamo fatto serie di concerti, siamo andati anche al Picco, un altro teatro della cooperativa, erano talmente emozionati, noi non c'eravamo con loro, ha cantato da sole, erano talmente emozionati che siccome loro cantano con una cantante che lancia la canzone e gli altri vanno dietro, lei ha rifatto la canzone due volte, perché non pensava la canzone dopo ha lanciato con le quelle tutte ancora quelle, perché è così, e va bene. Allora, questa è una canzone che dice, piuttosto che nascere uno schiavo, è meglio nascere un'oca. E si sa, stasera l'avete mangiato, che fine fanno le oche, no? Cioè, le oche. E allora, noi l'abbiamo un po' rivisitata a modo nostro, e prima nasce un servitù, le viene nasce un'oca, se la dura, di notte, e la paga, le sempre a poco. Però noi partiamo con un canto che diceva invece, ormai, ormai, ormai a sciurpato. Se sfanò la burmaia a Caiuma il più se buono. stata scritta quando Matteo Renzi... Chi è che ha detto Matteo Renzi qua? Ha detto Matteo Renzi? Ha detto Renzi con lo stronzo. Ha detto così. No, attento, perché qui c'è... Allora, Matteo Renzi ha redatto... Non redatto, hai detto redatto. Dove sono quelli di redatto? Dove sono? Sono fuori, beh, sono stati di quel boccione, non sono più in traffico. Io insegno, senti, insegno, senti. Tu lo dai al professore, insegno, senti. Allora, e la canzone è quella su Jobs Act. Jobs Act è quella legge che ha permesso tante cose. Tra le altre cose, ha permesso che si facessero i contratti con le tutele crescenti, una bella barzelletta. Noi però l'abbiamo scritta questa canzone, che si dice che ha bisogno del coro vostro, quindi è come un gospel, vuoi provare, nota, oh, finalmente vedo che bevi l'acqua, e va bene, allora stiamo attenti, facciamo un attimino un coro, facciamo un attimino a giocare, attenzione, la canzone originale è così, dammi una nota. Qualsiasi, ecco qua, attenzione, a giocare, non sta sereno, e con le mani in tasca noi non staremo, a giozzar, non sta sereno, e con le mani in tasca noi non staremo. Però volevo far provare il pubblico il coro, voglio sentirlo da voi. Attilio, guida i ragazzi lì, perché bisogna rispondere, come un gospel. A giozzar, non sta sereno, con le mani in tasca noi non staremo, a giozza non sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo. E scari uno, grazie, caro Matteo, non so quei tempi dei campi di cotone, questa riforma per voi è un tocca sana, solo per i padroni che risparmia la grana. Oh, così fai a stare zitto, chi decide è solo l'azienda, poche discussioni adesso fuori dai coglioni, a giozza tu sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo, a giozza tu sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo, soprattutto nei lavoratori, articolo 18, solete superate di botto, ha diviso così bene tutti i lavoratori, di vecchia cosa i giovani lavora tutte l'ore, a giocca tu stasera, che con le mani in tasca non lo saremo, a giocca tu stasera, che con le mani in tasca noi non faremo. Mascheuccio sei moderno, usi qui, puoi cancellare i diritti con un clic, prima ci dai le tutele crescenti e dopo ci precipiti con i licenziamenti. Oh, faccio su e giù, che dal divertimento che la paga su e giù, questo è che mansioni avendo, mansioni inferiori, salario più basso, anche bella sta riforma del cazzo. Non sta sereno, e con le mani in tasca noi non... non staremo a giozza, non sta sereno, e con le mani in tasca noi non staremo. Non so quanti di voi hanno visto la manifestazione, qualcuno ha partecipato, qualcuno no, ma un anno fa ci trovavamo, più di un anno e mezzo fa ci trovavamo qua in Calusca a pensare cosa fare in un presidio davanti a Palazzo Diamante, dove in Piazza Bobardi. E quindi abbiamo pensato che quello che dà fastidio, e abbiamo sentito anche oggi parlando di precariato alle grosse aziende, è anche questa che è l'immagine, no? Il scalfire la loro immagine sacra, come una vacca indiana, come direbbe Gabe, comunque molto sacra, molto sacrale, quindi non toccare. E noi abbiamo pensato invece, poi qui abbiamo un maestro di sacrazione come Joseph Frender, che ha pensato subito di prendere il naso da maiale che aveva messo come un bandiere, mettere un cilindro con sopra banca su questa grossa, di questa grossa. Allora, questi qui con dei grossi trappoli con dentro in mezzo alla piazza giravano sventolando la bandiera francese, chissà perché poi francesi, e parlavano, passavano sotto e si giravano, e c'erano quelli che giocavano con i birilli con delle clavette, e c'era scritto sopra lavoratori BNL, quindi l'allegoria era chiara, non si giocava con noi, c'era quell'altro che aveva le palle, giocava con le palle e diceva ce ne avete raccontate tante che adesso le buttiamo addosso. E ora noi abbiamo pensato, c'era un gruppo di scalvanati, tra i quali anche qua il dottor Marcello Truccato al Sacchi, per presentarlo così, Marcello Truccato al Sacchi, ma anche il commendator Gianni Rota alla chitarra, al flauto, e soprattutto, come avete visto, si è tolto le sue mutande per farne addirittura un rigiditare. Le mutande le ho portate a Rota, d'altronde chi di noi è un po' del Maurizio, no? Che si protegge l'orifizio, come dicevi. Allora, perfetto, quindi con la mutanda lì, e abbiamo cantato sotto questo grosso grattacielo enorme, che poi siamo andati a gente di paese, siamo andati a casa, perché cantare sotto il grattacielo enorme. E allora abbiamo cantato una canzone su tanto Rota, la Rota è un po' preso nella sua. No, perché ci sarebbe che lui dovrebbe suonare quella cosa là, no? Se non lo vedo preso, allora noi passiamo quell'altra. No, allora, passerei su questa, passerei su quella dopo, perché prima che finisce è notte. Allora, abbiamo pensato di cantare l'inno francese per eccellenza rivoluzionario, no? Ma in questo caso è proprio la marsigliese, l'abbiamo cercata però di modificare, una marsigliese contro il Paribas. Non è stato facile, infatti l'abbiamo abbastanza cannata, se vogliamo dire quella volta lì. Però era l'idea, e siccome l'abbiamo fatta così, mi piacerebbe che tu la facessi come Johnny Coleman, adesso finisce, ma il finale, perché allora facciamo la marsigliese, quindi la marsigliese Rota, dai, siamo precisi, pronti? Allora, avanti, con la marsigliese del Paribas. Thank you. necessaria umanità. Ma vogliamo vivere, avere un ruolo in questa società, in questa azienda qua, ma tutto questo qua nel piano pari va, nel piano pari va. Ma noi non ci arrendiamo. Oh, invece alla Calusca, la casa losca, perché molte volte noi quando siamo lì e ci tocca fare delle operazioni che non ci piacciono, preferiremmo fare il palo nella Valle dell'Ortica piuttosto che stare lì a vendere cose. Per cui questa canzone che amiamo, ma che amava anche Alessandro, dove sei? Tiglio? Direi che questa si può. Tu la sai questa? No? Bene, stai dietro. Perfetto, ci siamo. Alberto, piace anche il tuo papà, Camillo? Piace anche a lui, faceva il padre, ma gliela fai sentire, diglielo che la facciamo dedicata a lui, vai! Deciso, vai, sbrocca! L'ortica, ma che era squercio e non ci vedeva quasi più. È stato così che li hanno presi senza fatica, li hanno presi tutti proprio tutti fuori di noi. Lui era stesso che scrutava nella notte quando è passata davanti a lui con carabinieri, il sottotista senza libero mezzo la notte, bianca una piega o una taglia campista. Faceva un palo perché era sofistico, faceva un palo nella bella dell'Ortica, faceva un palo perché non era sofistico. Così precisi come quelli della mascherpa, dove servivano i suoi amici a vedere i carabinieri. Andevo da come ripareggiava la porca, e il nostro palo prima stesse a bandone. Lui era fisso e scrutava nella notte, appena via ne lasciamo quasi vestire, lui sempre fisso che scrutava la notte, perché mi vedeva nel menotto fedelti, e devi ancora non stavo nella via, la gente guarda gli da 100 lire e poi se ne va. Lui si sospetto guarda in giro la teglia, però borbotta meglio fai un po' la via. Lui dice non si fa così a rubare, ma dice ma a me mi lascia venire fuori loro chissà quant'è il signor che la tenessi, e poi il bottino me lo lasciano su a 100 lire, a far così non finiamo più, e il bottino me lo danno a 100 lire un po' per volta, così non ci andiamo più. Anzi tanto è la mamma dell'Ortica, faceva un palo e c'era il suo mestiere, faceva un palo e mamma la sua mestiere. Ci sei, ci sei, Paolo? Poi un applauso a Paolo, la nota è uscita. E vi promette buone cose. Vai, vai con la, vai con te, tu vieni dietro a noi, va. Nobody knows. non si sente, non si sente Paolo, prova a sentire. Sentiti, prova, prova. No, non va. Aspetta, silenzio. Allora, prima di questa canzone c'è Marco Villani, un applauso Marco, Marco. Marco Villani. È andato qua. Ecco, una volta che sono qua. È qua. Stavi, dove stavi andando te? Perché c'è la macchina. Allora, un attimo. Ti fa un casino. Ragazzi, ma se lo ridete però, siamo un po' seri. No, zitti. Allora, vai. No, dicevo, Marco ha pensato ad Alessandro in un modo molto originale, ha pensato a una sorta di poesia lettera, di qualcosa che direi che è una cosa molto particolare. Si è trovato anche con i Foo Fighters, con i Foo Fighters. Allora, dopo il suo pezzo dedicato ad Alessandro, partirà il nostro pezzo che in qualche modo ricorda certe atmosfere che lui amava, specialmente del rock progressivo, BFM di quegli anni, ma questa è un po' particolare perché è un po' onirica. Ma eccomi qua. Allora, Alex, il bassista del gruppo. Alex, il bassista del gruppo sindacale. Alex dava il ritmo, calmo, riflessivo, mentre intorno ci fannavamo a discutere e a polemizzare. Era come John Entwistle, vi ricordate, il bassista di Duke. Sul palco Roger cantava e ruotava il microfono in questo modo. Pete saltava e muoveva la mano sulla chitarra a mulino e a volte anche la schiantava per terra. Kate Moon alla batteria rullava impazzito e la fracassava spesso e volentieri. John invece impassibile, immobile, però dava lui il ritmo al gruppo, propagando note basse. E Alex si dava il ritmo, ci calmava con i suoi commenti sensati, ci riportava in rotta con la sua risata a lungo singhiozzo, che è la più bella che abbia mai sentito. So chi se ricorda, so di cosa sto parlando. Alex è il nostro metronomo, atleta prestato alla banca e al sindacato, uomo di numeri e di dichiarazioni fiscali, ma quello che emani, Alex, sono emozioni e sorrisi. È rigorosamente il mio contrario. Tu sottile, io grosso. Tu flemmatico e composto, io frenetico e spesso incazzato. Tu mangiavi con calma, col tuo ritmo. Io mi ingozzavo in fretta, senza quasi masticare, senza seguire il tuo esempio. Ascoltavi, si vedeva, i nostri discussioni, orari, i nostri diluvi, orari militanti, a volte uniti, a volte contrastanti. Tu attendevi, ritmico bassista, il tuo turno per dare le note e rimettere tutti quanti al loro posto sul pentagramma sindacale, col tuo viso ironico, atletico, musicale. Grazie. Lasciati andare, è come un grande mare, sole di notte, ore o sarò te, un gabbiano, vola piano, vola lento, va lontano, penso un olio. Il mare sullo scoglio, un uomo solo, suo cordoglio. Via, via, via corrente nella corrente. Via, via, via ponente nella corrente. Parte, parte, parte, parte, parte, parte. Parte, parte, parte, parte, parte, parte. E via, via, via nel tempo come in un lampo. Via, via, via nel tempo come in un lampo. Parte, parte, parte, parte, parte, parte. Parte, parte, parte, parte, parte, parte. Tutto intorno è pace, e poi lacerato, un pianto gridato, un vento di fuoco, è già finito il gioco, e poi il ghiaccio e il gelo, c'è mancato un pelo, fiori secchi dentro la bottiglia. Tutto il corpo si assottiglia, è un poco loco, svanisce poco a poco, è come un gioco, svanisce poco a poco. C'è un po' di tutto, c'è poco, c'è niente, è una cosa divertente. E c'è un po' di tutto, e c'è poco e niente. È il giardino della mente, è il giardino della mente. È il giardino, e c'è un po' di tutto, e c'è poco e niente. È il giardino della mente. È il giardino della mente, è il giardino della mente. E c'è un po' di tutto, e c'è poco niente. È il giardino, è il giardino della mente, della mente. Allora, siamo due pezzi finali. No, Viola, devi aspettare il pezzo che abbiamo dedicato ad Alessandro. Allora facciamolo adesso, quello dedicato ad Alessandro. Ok, che poi abbiamo un Novanka Donkai. Rimanete per fare... Allora, sì. Viola è la chitarra tua. Sì, ma tu, sì, suoni così. Allora, questo è un pezzo. E qui mi rivolgo soprattutto all'Attilio, ma anche alla Luci, ma anche con la veste del fratello, che sei. È scomparso. Dov'è il tuo fratello? È andato. Ma come cazzo? Ma cos'è? Come mezzanotte? Sì. No, è il suo fratello. È già andato. Ma no, cazzo, non lo so. Va bene, vieni qua davanti. Perché è stata una certa arrivata. Va bene, no. No, questa qui avevamo pensato perché dicevano, ma cosa possiamo dedicare all'Alessandro? Poi in realtà lui ha cominciato a suonare un pezzo, aveva la parte strumentale e man mano aggiunte delle parole. E niente, ve lo facciamo sentire perché è la dedica nostra Ale Ale, come l'abbiamo intitolato in quella canzone. vita scorre, corre la vita va. Il ritmo batte sconti, non ne fa. Di gente ne è incontrata molto, di gente giusta poco, e poco alla volta. Nessuno è perduto, nessuno hai abbandonato. Sulla tua bici, sulla canna, l'hai caricato. Col passo da bassista l'hai recuperato. Sulla tua bici, sulla canna, l'hai caricato. Senza scatti, pedale su pedale, l'hai recuperato. Momento, momento di forte emozionalità. Momento, momento di alta umanità. Discesa e poi salita, il senso della vita è questo qua. La discesa, poi la salita è già, il senso è tutto qua. Sei già arrivato qua, che non serve gridare a squarciagola, che di ragione non ce n'è mai una sola. Cambiano le cose, ma in fondo, quello che si muove nella vita gira solo in tondo. Cambiano le cose, ma il pallone è rotondo e Rivera giocherebbe ancora in ogni squadra del mondo. Siamo qua per te, Ale, Ale, questa è la verità. Il tuo stile ci manca molto e nessuno di noi ce l'ha. Giusto tono, fermo e modo, questa è la verità. Una brezza di gentilezza che fuori moda. Spingere, ce n'è ancora di posto. Ciao Ale. Paolo Zagari. Va bene. Grazie, grazie, siamo nel finale. Allora, questa canzone dice che no, in banca don't cry, è quella che normalmente è no woman no cry, ma è no, no, Pino, don't cry, no, banca don't cry. Salutiamo gli amici, un applauso, salutiamo tutti, vai! Vai! Dei costi poco produttivi, poco pagati, ma quel che guadagnano i banchieri non se lo sono mai guardati. Dicono che sono un bancario obsoleto e sono poco fungibile, ma ho solo una mano di cinque dita e solo il pollice, poco dire. Saremo anche inadeguati, ma quanti lavori nuovi continuiamo a fare, e i corsi di aggiornamento fanno cagare. Sulla voce dai! Soldi non te li danno e sono sempre plastiche, almeno col Covid per i miei soldi devi della cassa integrazione, e no, prima devi fare la polizza, la revolvi, che questi sì, non ho grazie, devi aspettare l'estremunzione. Se lo c'è un cento punti a poi a fondi e a nazione, non ti puoi stupire, c'è la customer, non ti puoi lamentare se poi lui ti insulta, ti sputa e ti vuole aggredire. Vieni in agenzia, vuol vedere lo spread, ti dà del ladrone, gliel'ha detto la vicina, l'ha detto su Facebook e poi glielo dice la televisione. No, manca il contrario. Che la giovanina non se ne vai. C'è questa canzone che l'abbiamo vista cantata là, che un po' unisce tutto il senso di questa giornata, perché come dicevamo all'inizio, parlando anche con Roberto, con Tommaso, la logica era quella di unire un mondo vecchio come quello delle mondine, delle risaie, di sfruttati, comunque francari, chi c'era più francare della mondina che faceva il suo mese, 40 giorni, un calcio in culo e via, a quello invece dei mezzemani, che quindi dei bancari. Ed è capitato che in una manifestazione, proprio in occasione di un vecchio, di un contratto di qualche anno fa, proprio in piazza della Scala, preso su da un comizio, da altre cose, c'era anche la Camusso, per esempio, della CGL, e tutto un tratto lo fa, ma quello lì è quello dell'Ampi, quello lì canta il Bella Ciao, fammi cantare Bella Ciao. Io però, imbarazzato, una Bella Ciao della Resistenza non mi veniva da cantarla in quel contesto, perché sapevo quanto poco di Resistenza lì c'era per tanti versi. Però ho pensato, ma scusa, la canzone originale, senza scomodare Cesare Bernali, poteva anche essere quella delle mondine, quindi quel mattino mi sono alzato. E allora noi abbiamo pensato di unire le due canzoni e poi spontaneamente mi sono usciti dei versi come se Bella Ciao la cantassero i bancari. Per cui partiamo col canto delle mondine, diventa poi quello dei bancari, ma non potevamo essere proprio uguali, perché sarebbe stato irrispettoso. Abbiamo... Meno male che ti ho detto di preparare i testi, se aspetto te, vabbè, diciamo. E lo sapevo. Allora, volevo preparare i testi per tutti, perché questa è una canzone che lui ha sempre amato e noi la cantiamo. Con una casa da sua Rosina stasera che ti dà la minestrina, vai, ci siete anche voi, via! Ci sei, Lentino? Non c'è ancora. Vedo a notte, ti vorrei dire, Dove sei? Com'è andata stasera? Sei sempre la solita palla, grazie. E la Luci l'ha detta così, un applauso alla Luci in Cazzaniga. Era qua la nostra Luci. Niente, noi vi salutiamo, vi ringraziamo perché avete dato, è stato abbastanza commovente, nonché direi anche corroborante, perché anche il dibattito sul precariato ci ha lasciato parecchi spunti su cui lavorare e sviluppare. L'appoggio della Carusca è importante per tutte le nostre attività, l'avete visto anche lì nel video. Io, per chi non mi conoscesse, sono Piero, vi do la buonanotte. Ciao. Sigaretta elettronica? Sì, è stata trovata una sigaretta. Comunicazione? Dove andà? Sì, allora è stata smarrita una sigaretta elettrica. È stata smarrita, quindi conseguentemente trovata, se no non era smarrita. E potete andare al bar a riprendermela. Questo è il senso della sigaretta.